La zanzara con Alessio Maurizi. 18 e 5 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, 824 0024, staremo insieme anche questa sera con i vostri interventi, insieme al sottoscritto, insieme anche alla redazione, Franco Piantanida, Diego Rovelli, li voglio ricordare, e Pietro Lacorte in regia. Il numero verde l'ho già detto, 349-238-6666, se volete scriverci i vostri sms, diamo un'occhiata anche al profilo su Facebook, poi la zanzara @radio24.it. A quest'ora normalmente diamo i titoli, non ci sono ancora i titoli dei TG. Allora, cominciamo con gli spunti per questa sera. In attesa della benedetta fase 2 del governo Monti, e oggi c'è il Consiglio dei Ministri, non si sa ancora niente, domani ci sarà invece una conferenza stampa, si saprà qualche cosa di più. Ieri sera invece, un po' così, sommessamente, un po' dicendo non dicendo, un po' maldestramente, forse un po' come la Pantera Rosa, Carlo Taormina, ex esponente di Forza Italia, credo anche del PDL, ma insomma vicino all'entourage di Silvio Berlusconi, ci ha raccontato quelle che secondo lui sono un po' gli sviluppi, gli scenari futuri della situazione politica attuale, e ripeto, dicendo non dicendo, così ha detto, buttato lì delle ipotesi che possono sembrare più o meno interessanti. Monti, per esempio, dice Taormina non sparirà di scena dopo il governo tecnico. Ma insomma, io non credo che Monti sia destinato a sparire. Io penso insomma che poi ci sarà un problema di gestirsi la questione tra Presidenza della Repubblica e Presidenza del Consiglio, e lì tanto Bersani conta il resto di niente, sempre meno, vedrà che se la giocheranno loro due. Bersani conta il resto di niente, e appunto Taormina così, dicendo non dicendo, come sicuramente altri politici non fanno, senza forse peli sulla lingua. E così, dice Monti, non sparirà dalla scena, va verso il Quirinale, ma nemmeno Berlusconi, se la giocheranno loro due, sparirà. Infatti sentiamo. Quando una persona invece, secondo me, e le battute di ieri o di oggi, adesso non ricordo, sono estremamente indicative. Io conosco Berlusconi bene, perché lo conosco veramente bene da quando abbiamo iniziato il movimento di Forza Italia. Come di quei giocarelli, sai, che quando si spingono le molle poi si rimbalzano sempre più alti. Berlusconi riprenderà in mano, anche perché chi ha intorno, come sempre ha fatto in tutti i suoi 17 anni di potere, è tutta gente che non è capace di farne, sì, appunto, mezza calzetta. Berlusconi si contorna di mezze calzette, tocca fare a lui tutto il lavoro e ricomincerà a farlo, togliendo per esempio spazio a chi, come il segretario del PDL attuale Angelino Alfano, dice Taormina, sì, è un bravo ragazzo per l'amor del cielo, ma niente di più. Beh no, Alfano è una brava persona, ma è una brava persona e basta, tutto qua. E poi non è più brava persona nel momento in cui, dovendo essere segretario del principale partito italiano, non fa altro che fare il verso a Berlusconi, e se non c'è autonomia e non c'è indipendenza, non c'è crescita. E ancora Carlo Taormina, avvocato, politico italiano, ex credo ormai tutto, perché non credo che abbia più incarichi parlamentari, se non mi suggeriscono giustamente dalla redazione, che era poi il motivo dell'intervista di ieri sera, principe eletto di Filettino, provincia di Frosinone, cioè quel comune, sapete, che punta a diventare autonomo, fregiandosi del nome di principato, insomma, ecco. Taormina, a proposito dell'asta cosiddetta o probabile o possibile sulle frequenze TV. Le frequenze, facciamola quest'asta o non la facciamo? Vediamo un po' se la facciamo e come la facciamo, o se la facciamo al momento in cui può partecipare soltanto Mediaset o chiunque o qualcun altro direttamente o indirettamente collegato. Beh, diciamo poi a Monti che lui è una persona onesta, non è così che si truffano gli italiani. Insomma, questo Carlo Taormina pensiero, molti ci hanno scritto ieri, ma come Taormina è un bollito, è un trombato, politicamente parlando, della scena italiana, perché l'avete chiamato? Perché è il principe di Filettino e volevamo capire se fanno sul serio da quelle parti con questa questione. Pare proprio di sì. E poi, ripeto, questa intervista che insomma butta lì degli argomenti che possono essere più o meno credibili. Titoli di Sky TG24. In corso l'ultimo consiglio dei ministri dell'anno, sul tavolo le misure per la crescita. Bot venduti, ma lo spread risale. Piazza Affari ha perso il 25% nel 2011. Calcio truccato, scagionati i tre azzurri concessi domiciliari a Gervasoni. Inchiesta su Piscicelli, rideva del terremoto, ora parcheggia l'elicottero in spiaggia. Petroliera sequestrata al largo dell'Oman, terzi al sicuro, avviate tutte le procedure. La salma di Kim Jong-il in un mausoleo, lacrime vere o false in Corea. Tensione Iran-Stati Uniti tra sanzioni e minacce di chiudere lo stretto di Hormuz. Hollywood piange una scimmia, è morta Cheetah, la migliore amica di Tarzan. Voglio fare una manovra che sia equa e pertinente, voglio fare una manovra per fregare un po' la gente, metterò le mani in tasca per rubare ancora quel po' che c'è. E vediamo quelle che sono un po' le dichiarazioni della giornata. Il tema è sempre quello del post manovra e, come dicevamo, dell'attesa per le nuove misure per il rilancio della crescita, vedremo, del governo Monti, l'attesa fase 2. Intanto il segretario della CISL Bonanni scalpita e dice: abbiamo dialogato con tutti i governi, ma con questi proprio non riusciamo a parlare. Io invece mi diverto con gli amici e siamo felici. Noi con Prodi allora abbiamo sempre trattato, con Berlusconi abbiamo sempre trattato, con questo governo, con partiti che si sono autosospesi, con un Parlamento a cui si chiede il voto di fiducia, senza un incontro, un confronto, un rapporto negoziale con sindacati e imprese, ma chi fa equilibrio? Chiaro che a quel punto ce la fanno solo le lobby e le corporazioni, e si è visto, il governo ha colpito duramente i deboli. Toccherò anche gli operai che sono già così Bonanni, così Bonanni. Adesso due dichiarazioni invece da parte di due diversi sostenitori del governo, ossia il PD e il PDL, due personaggi molto diversi: Stefano Fassina, economista del PD, e Gasparri, capogruppo, non so più se la Camera o al Senato, del PDL, che però tutti e due sembrano un po' dichiarazioni fotocopia. Dicono: sì, va bene, la manovra bisogna un po' correggere, soprattutto l'Europa deve un po' correggere il tiro, troppa austerità da Bruxelles. Sentiamo Fassina. La fase 2 va affrontata innanzitutto a Bruxelles per correggere una linea di austerità cieca che è evidente non funziona. Poi vanno date risposte ai quesiti posti dal Parlamento in merito al pensionamento di anzianità e alle misure di liberalizzazione. Infine va aperto il capitolo degli ammortizzatori sociali. E devo dire che è un po' curioso sentire da un esponente del PD, Stefano Fassina, economista, che regala però, devo dire, spesso delle perle un po' così, che fanno storia a sé. È curioso sentire da un esponente del PD il fatto che Bruxelles deve darsi una calmata sul tema dell'austerità. In fondo Monti è arrivato proprio sulla scia, invocato dal PD a moltissimo, per togliere di mezzo Berlusconi, è arrivato appunto Monti sulla scia di queste richieste europee. Adesso però si comincia a dire: beh, però ripensiamoci. Così invece Gasparri. Senza correggere le regole europee non si esce dalla crisi. Questo deve pretendere l'Italia. Per le liberalizzazioni attaccare i potentati, ma dialogare con le categorie e misure urgenti per la crescita e l'occupazione. Questo propone il PDL a Monti. Io invece mi diverto. E infine la Lega, che ha un'iniziativa al giorno. Adesso c'è chi propone di boicottare il discorso di fine anno del comunista napolitano. Parla la Lega al suo interno anche di un possibile ingresso dell'ex ministro Tremonti nella Lega. Intanto il presidente del Piemonte, Cota, dice così: Monti, la fase 2, oddio, la fase 1 già ha affossato le famiglie. Il governo Monti ha una grave responsabilità, perché prima ha fatto credere che avrebbe salvato la situazione e poi ha affossato con la manovra le famiglie e il sistema produttivo. Vista la fase 1, sono molto preoccupato per la fase 2. Toccherò anche i pensionati, tanto sono già spaventati. Però devo dire che nella giornata ci sono almeno due buone notizie. Una l'ho sentita anche nel giornale radio, c'era anche un servizio. Hanno tolto la licenza a Piscicelli, quello che, vi ricordate, all'indomani del terremoto all'Aquila rideva al telefono perché voleva fare affari per la ricostruzione e che, come sapete ormai tutti, ha portato la mamma sul litorale laziale con l'elicottero, con un'operazione assurdissima, sembra proprio l'Italia degli anni 60, quando i politici della DC si permettevano di tutto. E lui, insomma, ha fatto questa bravata, gli hanno tolto la licenza, non può più pilotare l'elicottero. Suo elicottero, insomma, per ora. E l'altra buona notizia è quella che viene dalla Lombardia: hanno sospeso la super liquidazione da 340.000 euro a Nicoli Cristiani, il vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, che è inquisito in una vicenda di corruzione. E finché non ci saranno le indagini preliminari, non so bene, o finché non ci sarà la sentenza di primo grado, insomma, è tutto bloccato. La liquidazione, Nicoli Cristiani non la prende, e questa senz'altro è una buona notizia. Va bene, 824-0024, tra poco con i vostri interventi questa sera fino alle 20.30, adesso facciamo una pausa per il traffico. Eccoci qua, allora, come anticipato, con i vostri interventi, cominciamo con Michele che ci chiama da Como, buonasera. Buonasera, veramente non è da Como, comunque sono da Ravenna, ieri ero a Como in vacanza. Ah, io ho letto da Como, hanno scritto erroneamente da Como. Vabbè, volevo intervenire Scusi, lei era a Como in vacanza? Ero come in vacanza, sì. Sul lago, sì. Benissimo. Sì. E volevo intervenire sempre relativamente al fatto che lo Stato ha bisogno sempre di soldi e volevo raccontare una mia esperienza che è un po' particolare, però potrebbe essere un sistema. Io faccio parte di un gruppo che collabora con la sovrintendenza archeologiche per fare scavi, per fare anche tante cose, adesso non stiamo lì a raccontare tutto. E mi è capitato in questa veste di frequentare i magazzini della sovrintendenza. E nei magazzini ci sono casse di materiali, dove anfore, piatti, brocche, oggetti di osso, oggetti di legno, che sono lì e non si sa bene che fine faranno. Tutte le volte che noi ci chiedono di spostare delle casse, cade della polvere, vuol dire che gli oggetti si stanno un po' distruggendo. Scusi, io mi sto perdendo completamente. Lei sta di che cosa sta parlando? Scusi, delle casse? Sto parlando dei magazzini, sì, della sovrintendenza archeologica. Ecco, per arrivare a quale argomentazione? Per arrivare a dire che in questi magazzini ci sono un mucchio di oggetti, sì, materiali, anfore, brocche, quelle che si vedono normalmente, no? Sì. In televisione, quando li pescano, così. E sono lì tutti abbandonati, no, sono nei magazzini e non verranno mai, probabilmente non verranno mai utilizzati. E allora? Per cui potevano pensare di vendere questi oggetti. Ah, ho capito. Fare cassa con la vendita di questi oggetti. Beh, è un'idea, insomma, è un'ipotesi. Si parla di tutto, di vendere patrimonio dello Stato e quindi anche forse una parte di questo patrimonio archeologico potrebbe servire a fare cassa. Ci hai voluto un po' per capirci, Michele. Comunque, grazie. Salutiamo il primo ospite di questa sera, Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Buonasera. Buonasera. Ferrero, la prima cosa che le vogliamo chiedere è una cosa che riguarda voi direttamente, perché in queste ore c'è stato un incontro tra i sindacati e l'editore di Liberazione e la notizia è confermata. Dal primo gennaio il vostro giornale, il giornale di Rifondazione Liberazione, non è più in edicola. Ci conferma questa notizia? Sì, abbiamo sospeso le pubblicazioni perché il governo, su proposta prima del governo Berlusconi e confermata dal governo Monti, ci ha tagliato 500.000 di euro per il 2010 e 2.000.000 di euro per il 2011 e quindi ci ha lasciato in mutande, diciamo. Quindi diciamo che però vivevate grazie, diciamo, a questo sostegno, perché se fosse per il mercato probabilmente il giornale non sarebbe, sarebbe morto prima. Assolutamente, i giornali politici moltissimo, tra cui sicuramente, sì, Liberazione, riuscivano a vivere, abbiamo fatto un lavoro di taglio dei costi enorme, ma riuscivano a ottenere il pareggio, sarebbe riuscito a ottenere il pareggio anche col finanziamento pubblico. Ma non provate qualche altra strada, voglio dire, cioè rinunciate così a un pezzo, seppur piccolino, per amor del cielo, di storia della sinistra italiana, un giornale in edicola credo dal 91, l'unico, l'ultimo forse giornale comunista in edicola. Le assicuro che non stiamo rinunciando, nel senso che noi adesso sospendiamo, in questi anni abbiamo speso fior di quattrini. Nel 2008, l'ultimo anno che dirigeva Sansonetti, abbiamo speso 3 milioni e 100 di deficit, siamo riusciti a ridurlo, 1 milione e 6 l'anno dopo, 300 mila eravamo arrivati nel 2010 per metterlo in pari. Adesso stiamo aspettando che il governo ci dia un quadro chiaro dei soldi che ci saranno e su quale tipologia di giornale. E poi noi lavoriamo per riprendere le pubblicazioni, tant'è che abbiamo già lanciato una sottoscrizione. Però non è un po' paradossale per voi che insomma, avete difeso i diritti di tutti i lavoratori e adesso vi trovate proprio voi a lasciare senza lavoro i dipendenti di Liberazione? Se fosse successo alla Fiat o al Corriere sareste saliti sulle barricate dicendo il solito capitalismo che non funziona, l'italiana, i lavoratori perdono il posto, comunisti ma in casa d'altri, verrebbe da dire, Ferrero. No, direi di no, comunisti anche a casa nostra, nel senso che l'unico problema che abbiamo è che i soldi non li possiamo stampare e quindi essendo che abbiamo messo di tasca nostra, diciamo di rifondazione, che poi rifondazione il bilancio vuol dire i compagni e le compagne che pagano le tessere, perché come sa noi siamo fuori dal Parlamento e quindi non abbiamo particolari altri finanziamenti pubblici. Ne abbiamo messo in questi 5 anni quasi 7 milioni di euro. Non ci sono fisicamente altri soldi e quindi io giustamente appoggerò tutte le lotte dei lavoratori di Liberazione che hanno un obiettivo, che il governo non tagli questo fondo. Però le leggo dal manifesto di oggi, che diciamo riporta le dichiarazioni dei sindacati che dicono a questo punto non credono che sia solo una questione dei fondi statali che vengono a mancare, ma dicono insomma si voleva chiudere Liberazione tout court. Allora le propongo, diciamo così, una cosa tra gentiluomini. Sì. Se lei mi trova il mezzo milione che ci hanno tagliato sul 2010 e i 2 milioni che ci hanno tagliato sul 2011, io non ho tutto questo potere, io vado avanti. Perché è del tutto evidente che la discussione su Liberazione si è aperta solo perché il governo ha fatto i tagli, altrimenti io sono il primo interessato ad avere un giornale di rifondazione comunista. Come è noto non godiamo di, diciamo così, di tanti spazi nella televisione, negli altri giornali, e quindi avere un giornale di rifondazione è un punto decisivo. Sì. Per questo abbiamo messo tutti quei soldi per tenerlo in vita. Io avevo solo riferito quello che dicono una parte dei sindacati, forse in questa vicenda. Diciamo, questo non è vero. Okay. Noi esattamente il nostro problema, e noi stiamo lavorando per vedere di come si tiene aperto, perché noi abbiamo bisogno di una voce, diciamo, comunista in questo paese. E il punto è che con un taglio così forte noi non ce la facciamo a tenere un quotidiano ad oggi. Perché sa com'è, è anche un altro problema, è difficile per noi avere pubblicità, non ci sono tante aziende che fanno pubblicità, che vogliono legare il loro nome per cui noi di pubblicità avremo 100-150 mila euro all'anno, quando altri giornali hanno 10, 20, 30, 40 milioni di pubblicità. E purtroppo la pubblicità che viene da noi è poca, e sarebbe bene che ci fosse una norma che stabilisse che la pubblicità dovrebbe andare, per salvaguardare la libertà di stampa, anche ai giornali che magari non fanno tanto piacere ad altri, perché anche quello è un pubblico. Però una norma, qua gli investimenti pubblicitari sono, come dire, in pieno mercato, vedo difficile una norma. Come dice lei, ha qualche diciamo idea? Che questo mercato, essendo che noi organizziamo i poveri, quelli che hanno i soldi per fare la pubblicità non la mettono su Liberazione. Le voglio far sentire una cosa e poi la commentiamo. Natale di Merkel, non so se l'ha visto, è Maurizio Crozza con la parrucca da Angela Merkel che ringrazia gli italiani perché dice grazie al taglio delle pensioni ci siamo salvati anche noi, e il coro di italiani un po' indignati che dicono sì vabbè adesso questo Natale ce lo faremo col tramezzino anziché col salmone. È irresistibile Crozza secondo me. Ferrero, lei ho letto che nei giorni scorsi si è spinto a dire che siamo sotto un protettorato tedesco addirittura. Non è una cosa da comici dire una roba del genere? No, purtroppo è la tragica realtà, perché siamo in una condizione in cui il Parlamento ha votato sotto dettatura una manovra che non ha nessun senso per l'Italia, perché è una manovra recessiva, cioè aggraverà l'economia italiana, l'anno prossimo staremo peggio di come eravamo l'anno prima, è una manovra iniqua perché fa pagare più i lavoratori, i giovani, i pensionati che non i ricchi, non fa una tassa patrimoniale banalmente, non mette tetti alle pensioni né niente. E in più la cosa veramente brutale è che non serve a nulla contro la speculazione finanziaria. Ecco, ma è vero quello che... Sì, prego, prego. No, dico, tutto è stato giustificato di questa manovra come di quella greca, sì, che serviva a bloccare la speculazione. La Grecia in un anno di cura l'hanno portata in un disastro, praticamente l'hanno riportata agli anni 50. Ecco, ma è vero che in Monti, questo senso noi... che Monti fa, sì, come dice qualcuno, gli interessi di Goldman Sachs, delle banche, solo della finanza internazionale? Io mi limito a constatare che queste manovre distruggono l'economia reale, per cui pagano di più i lavoratori e i pensionati, ma stanno pagando anche gli artigiani, i commercianti, la piccola impresa, perché le banche banalmente non gli prestano i soldi e così. Mentre la speculazione finanziaria, la grande finanza non viene toccata, le rendite finanziarie non vengono toccate. Allora, questo è il punto, che oggi la vera divisione e tra chi vuole mettere la mordacchia alla speculazione e per questa via difendere i diritti dei lavoratori, ma difendere la possibilità della gente di lavorare, ripeto, anche le piccole imprese, il commerciante, l'artigiano, oppure dall'altra chi lascia mano libera alla finanza e la finanza governa il mondo sulle spalle della gente e purtroppo lo sta distruggendo dal punto di vista delle condizioni di vita. Paolo Ferrero, adesso le voglio chiedere se era meglio allora il governo Berlusconi del governo Monti, però glielo chiedo tra un attimo, prima abbiamo una pausa per la borsa, tra poco. 18:32 minuti, siamo in compagnia di Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. Ecco, qua abbiamo parlato della chiusura del quotidiano Liberazione, il quotidiano di Rifondazione, un evento che a me personalmente fa dispiacere, perché ogni volta che si spegne una voce sarà retorico, ma è un peccato, e poi si perdono anche i posti di lavoro. C'è un ascoltatore via SMS che ci chiede, però che le chiede, Ferrero, quante copie tirava Liberazione, perché fare l'editore coi soldi di Stato, dice questo ascoltatore, è facile. Quante erano le copie? Tirava 30.000 copie, se non ricordo male, ne vendeva 5.000 circa. E in ogni caso sottolineo che per adesso noi abbiamo proposto di sospendere, sì, perché noi riteniamo di vedere o online o un settimanale, in qualche modo di tentare di vedere di rimanere in qualche modo presenti. Dicevamo, volevo dire una cosa, sì, all'ascoltatore, perché in tutto il mondo, compresi gli Stati, sì, Uniti, le radio non commerciali o diciamo le forme di informazione non commerciali sono sovvenzionate dallo Stato. Per un motivo che a volte anche chi è piccolo dice delle cose che sono utili per la società. Faccio un esempio solo. In questi mesi siamo stati quasi gli unici a dire che la follia della speculazione era dovuta al fatto che la Banca Centrale Europea è l'unica banca centrale del mondo che presta i soldi alle banche private all'1%, ma non li presta agli stati, e così gli stati sono strozzati dalle banche private che poi gli prestano i soldi, diciamo, a usura. Ora, questa cosa qui la diciamo solo noi, perché evidentemente a qualcun altro dà fastidio dirlo, e però forse è bene che venga detto. E quindi c'è una funzione pubblica di tenere un pluralismo di posizioni. Quindi, detto questo, deciderà, sì, il governo se ci saranno i soldi oppure no, e quindi se riusciremo a tenere aperto oppure no Liberazione. Quindi Monti è un tramite di questo, secondo voi, del vostro punto di vista, di questo progetto un po' di speculazione internazionale, secondo il vostro punto di vista? Monti è un governante che non contrasta la speculazione. perché condivide l'assunto di fondo, che è quello che i soldi della banca centrale devono essere poter dati solo alle banche private e non agli stati. E questa io ritengo sia una follia. Si badi, è l'unico caso nel mondo questa della Banca Centrale Europea, perché ad esempio la Federal Reserve statunitense funziona esattamente come chiedo io, o la Banca d'Inghilterra, o la Banca indiana, giapponese, in tutto il mondo funziona diversamente. Lei pensi la follia che una settimana fa la BCE ha dato 500 miliardi di prestiti all'1% alle banche private, che è stato salutato come un fatto positivo, però. Titoli di Stato. Sì. No, io non sto dicendo che è negativo, sto dicendo che è un fatto, sì. No? Sono stati dati 500 miliardi di euro alle banche private all'1%, ma perché diavolo alla stessa cifra non si possono prestare i soldi agli stati? Perché alle banche private sì, che poi fanno le liquidazioni da 20, 30, 50 milioni di euro a questi signori quando vanno in pensione, e invece agli stati no? Questa è una bella domanda. Questa sembra una follia pura, e Ferrero, per questo però, che dico che aiutano la speculazione. Le vorrei chiedere, che differenza c'è allora tra il governo Monti, secondo lei, e invece il governo Berlusconi? Era forse meglio il governo di centrodestra che c'era prima, oppure non c'è soluzione di continuità? No, no, c'è una differenza di stili enormi. Sul piano delle politiche economiche c'è la stessa linea. Diciamo così, avevamo un neoliberismo pornografico, adesso abbiamo un neoliberismo austero, ma sul piano delle politiche economiche... Cioè cambiano i modi ma non la sostanza. Sì. Ma sull'articolo 18... Faccio un esempio, Tremonti e Berlusconi avevano firmato qualche mese fa quello che si chiamava l'Euro Plus Pact, che è un accordo che adesso Monti ha siglato, ha firmato per l'Italia, che obbligherà l'Italia nei prossimi 20 anni a tagliare 40 miliardi di spesa pubblica all'anno oltre al pareggio di bilancio. Questa follia che distruggerà l'Italia se la applicano, perché vuol dire demolire non solo le pensioni, ma la sanità, l'istruzione, insomma è una cosa da matti pensare tagliare 40 miliardi all'anno oltre al pareggio di bilancio. Questa roba qua l'aveva firmata prima Tremonti e adesso l'ha controfirmata Monti. Quindi c'è, adesso peraltro Berlusconi si lamenta delle politiche europee e lui ha approvato tutte le cose che erano da approvare in questi anni senza colpo ferire. Quindi c'è tragicamente una continuità formidabile tra i due, drammatica per il paese. Senta, lei ha lanciato in questi giorni molti appelli per un'unità a sinistra, sia a Sinistra e Ecologia e Libertà di Nichi Vendola, sia all'Italia dei Valori. Qualcuno ha risposto a questo appello? Abbiamo un'interlocuzione positiva con Di Pietro sul versante del cercare di ricostruire un'opposizione alle politiche di questo governo, diciamo, peraltro in buon raccordo con le organizzazioni sindacali che giustamente in questo periodo chiedono che paghino quelli che non hanno mai pagato, non che continuino a pagare i lavoratori, i pensionati. Quindi su questo versante c'è un elemento positivo. Devo dire, da Vendola ho visto un segnale negativo, tant'è che ho letto su una sua intervista all'Unità che non è interessato a costruire l'unità a sinistra. A me questo pare un vero errore, perché secondo me la cosa che manca effettivamente oggi in Italia è una sinistra credibile e quindi unita, che possa essere da punto di riferimento dentro questa situazione che viviamo. In questo senso, anche se ho avuto risposte negative da Vendola oggi, io continuerò a porre il tema. Ma Vendola che fa secondo lei, Ferrero? Corre dietro al PD, cerca di... Di restare continuo in questa strada, diciamo, di invitare il PD. Non so francamente che prospettiva abbia, perché oramai questo governo è chiaro che va avanti per un anno e mezzo, e quindi il problema di questo anno e mezzo è se si continua a tagliare la sanità, le pensioni, e la spesa sociale, gli assegni per gli anziani. Cioè il problema è se c'è una sinistra che fa opposizione, non è che... Quello che succederà tra un anno e mezzo lo vedremo, ma adesso il problema è costruire l'opposizione a queste politiche. Senta, ma lei non ha mai nessun rimpianto sul, diciamo, il logoramento che ci fu al governo Prodi, l'unico nella storia italiana che abbia portato un comunista a Palazzo Chigi, cioè lei, ripensandoci adesso? Beh, no, di comunisti, diciamo, nel governo ce n'erano stati anche prima. No, ma formalmente. Molto più illustri di me, da Togliatti. No, no, vabbè, però sì, sì. Adesso, diciamo, a parte quell'epoca storica, diciamo, nella storia più recente. Detto questo, francamente quel governo è caduto da destra. L'ha fatto cadere Mastella, la Binetti, che gli hanno tolto la fiducia. Però oggi se lo terrebbe stretto il governo Prodi. Io continuo a discutere dentro il governo Prodi, chiedendo il rispetto del programma. Non ho mai chiesto null'altro che il rispetto del programma che avevamo firmato e costruito insieme. E francamente non so che altro avrei dovuto fare se non il rispetto dei patti. Intant'è vero, devo dire che continuo ad avere rapporti assolutamente buoni con tutti i componenti del governo, perché tutti riconoscono che il sottoscritto non è che faceva il pazzo o chiedeva delle robe andava alle manifestazioni contro il governo mentre era il governo. No, dico, andava alle manifestazioni contro il governo mentre era il governo. Qualche sintomo, non dico di pazzia, ma di di schizofrenia. Sì. Non sono mai andato a una manifestazione contro il governo, mai, mai. Diciamo, io sono andato a una manifestazione parallelamente, a favore dei Dico, sì, che era stato approvato dal governo e non venne approvato dal Parlamento. Gli unici ministri che andarono a una manifestazione contro il governo furono Fioroni e Mastella, che andarono al Family Day, che venne convocato contro la legge dei Dico. Ma tanto Ferrero, non c'è niente di male. Ma loro sono gli unici andati a fare una manifestazione contro il governo. Perché anche la Lega ha fatto spesso. Fatto. No, ma dico, anche la Lega ha fatto spesso manifestazioni contro il governo, essendo al governo. Tra l'altro c'è una strana consonanza di idee con la Lega. Anche loro sono contro il taglio delle pensioni, parlano adesso per il governo Monti di democrazia sospesa. Non le fa impressione essere in compagnia della Lega in questi giudizi? Ma sovente quando si è all'opposizione capita che sia l'opposizione di destra che quella di sinistra, essendo all'opposizione, critichino il governo. La cosa che a me fa specie della Lega è questa, che la Lega ha approvato tutte le cose di questi tre anni, i tagli, tutto, ha approvato, banalmente la Lega ha approvato gli accordi di Lisbona, li ha votati in Parlamento nel luglio del 2008 e sono gli accordi di Lisbona quelli che prevedono che la Banca Centrale Europea possa prestare i soldi alle banche private ma non agli stati. E adesso sento la Lega lamentarsi del fatto che la Banca Centrale Europea non presta i soldi agli stati, solo che l'hanno votato loro. Quindi la Lega francamente è un'opposizione demagogica. Nel senso che quando è al governo vota una cosa e quando invece è all'opposizione dice l'opposto. A me sembra il trasformismo, diciamo, il peggio della politica, questa roba qua. Senta, ma secondo lei sull'articolo 18 il governo ha finito, diciamo, non si è neanche aperto una discussione, ma si aprirà oppure è stato già archiviato il discorso? Io temo che si aprirà, spero di no. Spero che sia stata sufficiente l'opposizione delle organizzazioni sindacali, del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori, nostra, però temo che resta si riaprirà. E invece le lacrime della Fornero, le famose lacrime del ministro Fornero quando parlava dell'adeguamento delle pensioni più basse, che effetto le avevano fatto? Ma io non discuto dei cioè, credeva alla sincerità oppure no? No, io non discuto dei fatti privati, nel senso che è possibilissimo che la Fornero, diciamo, nel suo animo fosse dispiaciuta, sofferente per la manovra che stava facendo. Quindi io non do un giudizio su questo piano qui, perché rispetto, diciamo, le persone e non posso nemmeno pensare che uno abbia fatto, diciamo, artatamente. Questo non toglie nulla sul giudizio politico, e cioè la manovra fatta dalla Fornero è una manovra iniqua, cioè che fa piangere gli italiani, recessiva, cioè aggrava l'economia in Italia, e inutile contro gli speculatori. Quindi la Fornero forse è in buona fede, solo che è disastrosa. Ha una politica che demolisce le conquiste, i diritti, il grado di civiltà che si è conquistato in questo paese. Va bene, grazie. Paolo Ferrero, buona serata. Grazie a lei, buona serata. In ogni caso, se volete lanciare anche dalla Zanzara la sottoscrizione per far continuare ad uscire Liberazione, fate un favore a me e ai lavoratori e alle lavoratrici di Liberazione. Però c'è un ascoltatore che dice, facevate 30.000 copie e ne vendevate 5.000, cioè 25.000 copie venivano buttate via ogni giorno? Sostanzialmente sì, perché la distribuzione è fatta che ci sono circa 30 edicole in Italia e quindi bisogna andare grosso modo in ogni edicola. Noi andavamo con una, due copie per edicola, avevano già tolto Sardegna, Sicilia, perché è vero che accade troppo anche per altri giornali, una differenza comunque. E quindi c'è una differenza tra copie tirate e vendita che è enorme ed è un costo clamoroso, solo che uno non può, essendo che le edicole sono tante, non si può andare solo in qualcuna, diciamo. Pur avendo fatto un lavoro di razionalizzazione su questo piano, comunque è chiaro che c'è una perdita, che c'hanno tutti i giornali questi che buttano copie. Grazie ancora, buona serata. Grazie a lei, arrivederci, buonasera. Facciamo il traffico e poi tra poco ascoltatori. Eccoci rientrati in diretta, 824 0024, tra poco prima sentiamo i titoli di studio aperto. Palloncini, fiori e il volo delle colombe bianche per l'addio ai 5 amici morti in un incidente in Calabria la notte di Natale. Migliaia di persone ai funerali, negozi chiusi, luminarie spente. Il paese non sarà più lo stesso, dice il sindaco. Striscioni e ricerche, Pescara torna a mobilitarsi nel giorno del 24esimo compleanno di Roberto. Adesso potrebbe avere la barba, dicono gli amici che diffondono un identikit. Nuovo appello dei familiari, auguri, ti aspettiamo per festeggiare. Ultimo consiglio dei ministri dell'anno, Monti prepara la fase 2 destinata alle misure anticrisi e al rilancio dell'economia. Assa record per i bot, ma lo spread risale sopra i 500 punti. 15 tracce biologiche sugli abiti di Serena Mollicone. A 10 anni dal delitto della studentessa uccisa ad Arce spunta una nuova pista investigativa. L'esame del DNA potrebbe rivelare il nome dell'assassino. Il papà della ragazza, finalmente si va verso la verità. Aveva lasciato 2 milioni di euro a una coppia di amici che dovevano prendersi cura del suo amato cane, ma l'animale, maltrattato e tenuto legato in giardino, è morto. I nipoti della donna hanno fatto intervenire il giudice e addio eredità. L'Olanda ha detto basta. Dal 1 gennaio nei coffee shop non potranno più entrare i turisti e scatta la caccia ai voli per fumare l'ultimo spinello ad Amsterdam. In Italia Capodanno senza botti. Ecco la mappa delle città che hanno vietato i petardi. Merkel, dice Maurizio Crozza, siamo sostanzialmente sotto un protettorato tedesco, ha detto poco fa ai nostri microfoni Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista. Ascoltatori, riprendiamo con Serafino che chiama da Ravenna, buonasera. Buonasera dalla provincia di Ravenna. Prego. Senta, secondo me voi di Radio 24 sul piano economico fate davvero dell'informazione corretta, perché riportate dei dati. Grazie. Che in continuazione sbugiardano il governo Berlusconi. Ne cito solamente due. L'indagine di Oscar Giannino... Cioè, scusi, sbugiardano chiunque non dica cose esatte secondo il nostro punto di vista, non tanto il governo Berlusconi. No, sì. No, sì, la deduzione sbugiardano il governo Berlusconi è mia. Ma i dati corretti li riportate voi. Sì, per esempio? Vorrei citarne due solamente. Uno riguarda il rapporto debito-PIL. Ecco, è stato detto più volte nella vostra radio, dati alla mano che ora non cito, che Prodi lavorava per ridurlo, questo debito, ed era arrivato credo al 106-108%. Poi dopo prendeva in mano il governo Berlusconi e Berlusconi l'aumentava questo rapporto. questo rapporto e adesso ripete, io mi sono ritrovato il debito, no, lui il debito quando ha avuto il governo l'ha sempre aumentato, quando il governo l'ha Tremonti, in mano. Tremonti le direbbe che è il PIL che non è cioè il denominatore di quella frazione debito PIL che è calato durante gli anni del governo Berlusconi, dunque diciamo una variabile indipendente rispetto al governo, allora, cioè la crescita, però è solo un lato della spiegazione, poi c'è anche la questione del debito. Sì, prego. Guardi, però i dati che riporta Oscar Giannino, sì, compreso il commento del tipo che sto facendo io, sono dati chiari, cioè quando ha governato Berlusconi il debito pro capite è aumentato. Quando ha aumentato Prodi, e addirittura lui ha citato D'Alema. Sì, vabbè, però queste sono cose che si sanno perché vengono, insomma, sono gli anni scorsi. Invece, diciamo, più sull'attualità, voleva dire qualcosa? Va bene, no. Poi l'altro dato invece comparso 2 giorni fa sulla vostra, sì, radio è questo. Dell'evasione fiscale accertata, a quella accertata, l'Italia recupera il 10%, cioè l'anno scorso sono stati accertati 25 miliardi, però difatti ne incasserà solamente 2,5. Il 10%, meglio di nulla, sì. Mentre tutti gli altri paesi europei, Spagna, Francia, nel recupero di quella accertata vanno dal 65% al 90%. Allora, questo è un altro. Ma la mia domanda è questa, e concludo. Perché secondo voi, io non me lo spiego, ma perché secondo voi l'opposizione non cita, nel fare opposizione a Berlusconi, non cita questi dati che sono dati chiarissimi, perché sono dei numeri, l'ultimo ad esempio, molto chiaro. Secondo voi per quale motivo? Per quale motivo non c'è un manifesto? Io non me lo so spiegare. Va bene, grazie Serafino, grazie. È chiara la sua domanda, anche se adesso l'opposizione è un'altra, perché il governo è un altro, ma insomma, lei dice che l'opposizione, il PD è stato in silenzio su questi numeri che lei citava, ma non mi sembra, insomma, comunque. Ignazio da Napoli, buonasera. Salve, buonasera. Innanzitutto volevo esprimere a lei la sua notevole capacità di gestire la trasmissione in maniera obiettiva, equilibrata e chiara. Beh, chiara, grazie, obiettiva forse. Del suo predecessore. Sì, sì, vabbè. Allora, questione io, di punti di vista, senta, prego. Volevo dire questo. Come infermiere, io parlo anche a nome di un gruppo di colleghi che lavorano nell'ambito della rianimazione e terapia intensiva. Peccato che Paolo Ferrero è andato via, perché avrei chiesto a lui. Lo voleva rianimare perché è un po' in coma, no? Sì. Cos'è che voleva dire? Sulla questione dei lavori usuranti, e cioè la legge 67 del 23 sì. luglio 2011 è stata resa esecutiva poi con il decreto attuativo fatto pubblicato a novembre. Allora volevo chiedere a lei, visto e considerato che le pensioni sono un tema che è diventato centrale da parte di questo governo, e la Fornero ha fatto questa follia di portare da 35 a 66 anni la possibilità di poter ritirarsi in pensione, la questione dei lavori usuranti coinvolge migliaia o centinaia, diciamo centinaia o migliaia di nostri colleghi che lavorano con senso del dovere e con sacrificio. Quindi volevo chiedere se questa legge, fino ad oggi non ancora nemmeno citata da questo governo, è rimasta intatta nel suo complesso oppure è stata intaccata con l'approvazione della nuova legge a partire dal gennaio, che forse rischia per noi infermieri, almeno anche per me, che io per esempio ho 59 anni e 35 anni di servizio, di rimanere ancora più a lungo di quanto si dovrebbe, perché poi in effetti noi siamo quasi al collasso psicofisico per la difficoltà di dover erogare assistenza in maniera continuativa e in maniera professionale, sempre attenta, diventa difficile raggiunta un certo livello, diciamo, di età e soprattutto per le responsabilità che... Sì, ho capito il tema. Grazie Ignazio. Non lo so, francamente la sua domanda è un po' difficile, è un po' troppo tecnica per me, almeno personalmente. Sicuramente il tema dei lavori usuranti credo che sia importante, che non vada sottovalutato, però non lo so il decreto Salva Italia che impatto ha su questo argomento. Magari, boh, che ne so, proveremo a informarci, però forse bisogna leggere cose più specializzate per avere una risposta su questo, che non un programma, diciamo, più di opinioni poi alla fine come questo qua. Giulio da Chieti, buonasera. Buonasera. Niente, io mi spiace che Paolo Ferreri è andato via. Io volevo parlare in merito al finanziamento ai quotidiani. Sì. Io sono un edicolante e so di per certo che ci sono alcune testate che non si vende nemmeno una copia. Io so anche, e mi dispiace, di Liberazione, perché Liberazione delle volte faceva l'autofinanziamento a una copia 50 euro. E il cliente, qualcuno, lo comprava pure per finanziare questo giornale, cosa lodevole, per avere una pluralità è lodevole. Però, per esempio, da stare attenti, perché ci sono, per esempio, la testata che si chiama La Discussione, lì domani può andarla a comprare e si rende conto, aprendo, che dentro c'è la redazione, il direttore responsabile Antonio Falconio. Ma io mi ricordo che un certo Antonio Falconio, sarà forse un omonimo, ma era il manager della regione Abruzzo, cioè come si chiama, il... Non lo so, se non lo sa lei che lo sta dicendo. Colui che sta, il politico più alto della regione. Presidente della regione. No, il presidente, no, scusi, ma l'emozione mi prende un po'. Il presidente della regione Abruzzo. Vabbè, ma per dire, per dire che cosa, mi scusi Giulio? Cioè... Niente, per dire che cosa, che noi dovremmo anche stare attenti a che ci siano i finanziamenti pubblici ai giornali, che però dopo diventi un parcheggio per chi... non è più politico, per i politici per trombati, sì, diciamolo, è vero, c'è anche questo argomento, non credo che riguardi Liberazione, che è un giornale piccolo, per quanto però che aveva insomma, pur sempre una sua dignità, era il giornale di un partito reale, a differenza di altri che invece così facevano finta di essere giornali di partito ricevendo finanziamenti, pur non essendo giornali di nessun partito. Sandro da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Diciamo così, io sono un pensionato metalmeccanico. Quando c'è stata questa trattenuta sulle pensioni, cos'è? Sono l'unico in Italia che non mi lamento. Lei non si lamenta? No, non mi lamento, perché trovo che bisogna salvare lo Stato, bisogna fare qualcosa. Primo argomento. Ma lei su che cosa è stato toccato dalla manovra? No, niente, io accetto. Ah, ecco. Quindi non si lamenta perché non è stato toccato. Io mi viene l'orticaria quando sento parlare Berlusconi, i leghisti, che quelli che sono quelli che hanno fatto maggior danno allo Stato, hanno fatto due condoni fiscali con il rimborso del 5%. Questi signori hanno pagato la prima rata, così dicono nei telegiornali, poi non hanno pagato più niente. Lì ci sarebbe da andare a prendere i soldi. Sandro, grazie, fermiamoci qua. La Zanzara. 19:16 minuti, cari ascoltatori, 800 24 00 24, per intervenire in diretta anche questa sera fino alle 20:30. Ben ritrovati dunque, 349 238 6666 per i vostri SMS. E allora sentiamo i titoli di Sky TG24. Lo spread resta oltre i 500 e preoccupa, non incide il buon risultato nell'asta dei bot. Ed è partita la fase 2 nel Consiglio dei Ministri, in primo piano le misure per la crescita. Niente scommesse, siamo azzurri, smentite le voci su Buffon, Cannavaro e Gattuso. Progip di Cremona avverte, Gervasoni ha confermato anche in Serie A. 13 arresti nel centro-nord, in manette la banda dei giostrai, nota per le rapine violente. Rideva del terremoto, ora terra sulla spiaggia, inchiesta sull'imprenditore Piscitelli. In mezzo secolo gli immigrati in Italia saranno più di 14 milioni, lo rivela l'Istat. Lacrime e commozione di regime celebrati in Corea del Nord, i funerali di Kim Jong-il. Niente botti di Capodanno a Torino e Venezia, fino a 500 euro di multa per i trasgressori. Restano però i botti di calciomercato, Ancelotti a Parigi, Girardino vicinissimo al Genoa. Attenzione cari ascoltatori a non farvi sfuggire dalla vostra bocca la parola gaglioffo riferita a qualcuno di vostra conoscenza, perché non è un epiteto qualunque, bensì è un appellativo offensivo, e quindi potreste ricevere anche voi una sanzione per calunnia. Ecco quello che ha stabilito infatti le sezioni unite civili della Cassazione, che hanno convalidato una sanzione nei confronti del presidente del Tribunale dei Minori di Genova, che 3 anni fa, il 30 settembre 2008, aveva dato il gaglioffo a Berlusconi e ai suoi ministri, e era stato censurato, e oggi la Cassazione ha confermato, quindi niente gaglioffo. TG3. Va bene la strada dei bot a 6 mesi acquistati a tassi dimezzati, ma lo spread non scende. La borsa quest'anno ha perso un quarto del suo valore. 3 ore di riunione del Consiglio dei Ministri sul tavolo del governo, il piano di interventi per lo sviluppo e la crescita. Cresce la tensione nel PDL per le misure del governo Monti. Casini non dia lezioni chi ha creato il problema. Che cosa cambia con la riforma del catasto, le preoccupazioni degli agenti immobiliari, i problemi del mercato? Il Comune di Roma conta 62.000 dipendenti, 3.000 nuovi assunti negli ultimi 4 anni, alla Regione Sicilia 1.600 assunzioni. L'imprenditore che rise la notte del sisma all'Aquila va in elicottero sulla spiaggia per portare il mamma al ristorante, sospesa la licenza di volo. Calcio scommesse, la procura smentisce il coinvolgimento degli azzurri, solo chiacchiere da bar, spuntano conti cifrati di signori. Qualche giorno fa Bossi aveva detto: Tremonti prima o poi entrerà nella Lega. Oggi su alcuni giornali leggiamo che la base leghista è in subbuglio contro questa ipotesi, deve fare prima la gavetta se vuole entrare nella Lega Tremonti. Dunque c'è un'ostilità di una parte della Lega a questa ipotesi. Bossi corteggia Tremonti già da un bel po', dice che è un esponente conosciuto a livello internazionale e naturalmente gli farebbe piacere averlo nella Lega. Ne parliamo tra poco con un autorevole ospite, un onorevole della Lega Nord. Prima di presentarlo però, anzi presentiamola subito, Mara Bizzotto, europarlamentare, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Ecco, le voglio far sentire però questo pezzettino di satira di Corrado Guzzanti che qualche tempo fa così tinteggiava così la corte di Bossi a Tremonti. C'è una riedizione del Sorpasso, il film con Gassman e Trintignant, Gassman che voleva convincere Trintignant a uscire a fare la bella vita, poi finirà in una tragedia perché andranno a sbattere con la macchina e moriranno tutti e due, ma in questo pezzettino di satira Guzzanti fa un Bossi Gassman che cerca di convincere un Trintignant Tremonti restio invece a unirsi alla compagnia. Sentiamo. Dai, via giù, a Giulio. Oddio, è arrivato di nuovo con la scuola individua. Giù, come? Senta, non posso venire con lei perché devo studiare. Ma che stai a fare là tutto il giorno? Dai, è giù. Devo studiare, devo dare una tesina assolutamente perché ha una consegna 14, professore. Ma che se frega, andiamo e torniamo. No, perché facciamo troppo tardi. Torniamo. No, e poi dove andiamo? Guardi, io non so. Ma dai, no, se andiamo a trovare, che ormai, no, non posso andare. Andiamo in trattoria, se andiamo lì a non posso andare perché mi vengono le bolle. Mia madre ha detto che cosa. Ma che te frega, c'è sempre tempo che ti sta a venire a gobba, con qua vecchia sempre sopra che ti sta a rimproverare, ma via, se andiamo a divertire, dai! Senta, no, veramente la prego di non insistere, perché... Oh ragazzi, fate il colpo, ragazzi, favola, ora! Come lo vede Mara Bizzotto questo Bossi che parla romanesco come Gassman nel film Il Sorpasso? Preferisco il Bossi. Quello del vero, è ovvio. Brava, risposta perfetta. È più credibile, ecco, comunque. Come finirà questo corteggiamento di Bossi nei confronti di Tremonti, secondo lei? Ma no, non lo so, lo vedremo. Io penso però che chi la pensa come Bossi e a chi ha l'obiettivo, l'interesse del Nord, è sempre benvenuto in Lega. Quindi prima o poi potrà succedere, lo deciderà Bossi quando al momento, insomma, chi lavora per il Nord, chi lavora per l'interesse dei nostri cittadini. Ma secondo lei Tremonti in questi anni ha lavorato per il Nord, per l'interesse dei cittadini, delle imprese del Nord, quello che a voi sta a cuore? Ha lavorato, poteva far di più, evidentemente c'era una coalizione che è quella del PDL, che comprende sicuramente parlamentari del Nord, ma molti non del Nord. E ovviamente l'interesse di difendere sono molti, Tremonti ha fatto il ministro dell'Italia e quindi ha dovuto scendere i compromessi. Noi leghisti ovviamente a cuore gli interessi di una parte del paese volevamo far di più sicuramente. C'è una parte della base della Lega che leggiamo, ma anche esponenti con nome e cognome, che dicono Tremonti se vuole entrare nella Lega deve prima fare la gavetta, vada ad attaccare i manifesti, lo prevede il nostro statuto, si comincia dal basso e questa è la trafila. Però dico, per il figlio di Bossi, per il Trota, avete fatto un'eccezione e quindi si può fare anche per Tremonti, che forse ha qualche merito in più del Trota, o no? Qualche manifesto sicuramente l'ha appeso anche il figlio di Bossi, come tutti noi, come tutti i militanti della Lega, ma anche chi è all'interno dell'istituzione come me continua a fare volantinaggio, continua a fare il militante, anche perché è una cosa bella, utile e quindi si continua a fare. Tremonti farà quello che riterrà opportuno fare, ma ripeto, sinceramente in Lega in questo momento stiamo pensando ad altro, stiamo pensando alla grande manifestazione che faremo il 22 gennaio a Milano, stiamo pensando ai nostri cittadini che dovranno aprire portafoglio per pagare quelle tasse che Monti ha voluto, ecco, di questo ci preoccupiamo adesso. Siete diventati un po' come il PD che quando era al governo Berlusconi faceva manifestazioni e qualcuno però diceva una cosa inconcludente in un momento di crisi in cui bisogna invece rimboccarsi le maniche, cosa risponderebbe a una cosa del genere? Non siamo diventati come il PD, noi siamo la Lega e gli interessi dei nostri cittadini li difendiamo dentro e fuori le istituzioni. Non abbiamo paura di lasciare qualche poltrona se questo è più utile alla nostra gente, non abbiamo paura di scendere in piazza con il freddo come sarà a gennaio se questo serve a svegliare chi a Roma sta dormendo, meglio chi a Roma ben sveglio ma fa gli interessi delle banche, della finanza, ma non dei nostri cittadini. Quindi la Lega è questa, la Lega è sempre stata questa e per questo diamo tanto fastidio. Senta, onorevole Bizzotto, noi l'avevamo chiamata anche per questo, perché lei ha fatto sapere, e oggi credo che l'abbia confermato anche in un'altra intervista, che ha detto non ascolterà il discorso di fine anno di Giorgio Napolitano, il capo dello Stato. E fin qua uno dice, potrebbe anche dire chi se ne importa, nel senso che non è obbligatorio seguire il discorso di Napolitano, anche se per lei il gesto ha ovviamente un valore politico, ma la motivazione a me ha sorpreso moltissimo, perché lei dice c'è un manifesto che gira in rete perché ha tradito la patria, che detto da un leghista fa quantomeno un po' sorridere. Allora, giustamente lei ha detto una cosa, e chi se ne frega se io o altre migliaia o centinaia di migliaia di persone non ascoltano Napolitano. In effetti mi ha un po' sorpreso tutta la confusione che si è creato dopo che io ho semplicemente accettato nel mio profilo un manifesto taggato, come si dice, da Marina, che è una giovane leghista che abita a Nove qui a Vicenza, quindi in provincia di Vicenza. E io ho detto chiaramente perché non ho rimosso, perché credo che Napolitano sia stato innanzitutto il vero regista della crisi del governo Berlusconi e quello che ha voluto Monti prima senatore. Sicuramente ha avuto un ruolo importante, è evidente. Troppo importante per dimenticare, perché questo governo purtroppo, noi non l'abbiamo dimenticato, gli italiani nemmeno, soprattutto tra qualche mese quando dovranno pagare, sì, sicuramente si ricorderanno che queste tasse sono state volute da Monti e da un esercito di ministri che sono nominati, che rappresentano l'interesse delle banche. Però la parola patria fa un po' ridere in un manifesto della Lega su Napolitano, Insomma, diciamo che può far sorridere, ma quello che mi interessa far passare il messaggio è che ascoltare una lezione di morale dal Presidente della Repubblica, anche l'ultimo dell'anno, lui, come ho detto oggi in un'intervista, lui che è sempre stato comunista, lui che ha appoggiato le dittature comuniste e che hanno provocato milioni di morti, lui che nel 1956 aveva detto e aveva inneggiato i carri armati sovietici. Ma nel 56, Bizzotto, sono passati quanti? 55 anni? Cioè, voglio dire, Ma guardi che la storia è scritta, e i morti, gli operai, gli studenti uccisi. No, questo per l'amor del cielo, nessuno li nega. Esatto, però voglio dire, non le sembra di esagerare un po', cioè andando a ripescare una dichiarazione di Napolitano del 56, perché voglio dire, andando di questo passo, quanti politici italiani hanno sostenuto delle tesi insostenibili o addirittura cose ancora peggiori? Fini, che viene dal fascismo, ci sono politici democristiani e socialisti che hanno contribuito a creare l'enorme debito pubblico che oggi grava sulle nostre spalle, però sono cose passate. Forse fare un passo in avanti e venire all'oggi. Io sono abbastanza giovane, però insomma un po' di storia la conosco, e i morti fatti dai governi oltre alle strutture comuniste, e la guerra fredda. Sì, ma era un'altra epoca, c'era la guerra fredda, sono passati 55 anni. Sono passati 55 anni, ma la cosa assurda è, o comunque la cosa strana, che può succedere evidentemente in Italia, che abbiamo un presidente comunista che solo 50 anni dopo ha detto: beh, forse avevo sbagliato a dire quello che ho detto meglio tardi che mai, potrei dire. Meglio tardi che mai, però diciamo che 50 anni per un uomo così importante, di una caratura politica così importante, che è poi diventato Presidente della Repubblica, sì, credo siano un po' troppi 50 anni, anche perché appunto... Però un'altra cosa, Bizzotto, mi sembra chiaro quello che lei dice, e poi chiudiamo. L'anno scorso lei l'aveva seguito Napolitano, cioè voglio dire, quando la Lega era al governo, questa ostilità nel capo dello Stato, tra l'altro c'era anche un certo feeling tra Bossi e Napolitano, no? Guarda, adesso noi... è cambiato tutto. Non è che si è cambiato tutto. Noi avevamo e abbiamo un obiettivo, avevamo il federalismo, e purtroppo Napolitano è stato quella persona che ci aveva fatto credere, perché l'ha detto, che il federalismo era la riforma necessaria per salvare il nostro paese, e poi ha cambiato idea. Quindi è ovvio che quando sentiamo Napolitano dire quelle cose, dire che il federalismo serve, parlare bene del movimento che, come il nostro, che voleva portare avanti il federalismo, è ovvio che non possiamo dire non essere d'accordo con lui. Il peccato è che poi ha cambiato, diciamo così, idea. La cosa che non possiamo accettare è che Napolitano ha, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, è stato quello che ha un po' fatto questo furto di democrazia, perché quando gli italiani scelgono un presidente e poi lui dice no, deve essere Monti e devono essere questi i ministri, insomma, se Napolitano ha cambiato idea dopo 50 anni, la Lega su Napolitano ha cambiato idea, perché Napolitano ha cambiato opinione sul pensiero che aveva. Voleva un'Italia federalista. I ministri non li ha decisi Napolitano, ma insomma non fa lo stesso, mi sembra chiaro quello che lei dice. Insomma, sì. Non li ha decisi Napolitano, no. Perché questo formalmente, la Costituzione non lo prevede, ma che Napolitano fosse informato di chi erano i ministri, i sottosegretari. Ma questo è normale, ma insomma questo poi è la cronaca di oggi. Il PDL, il vostro ex alleato, sostiene Monti, voi no, questo mi sembra incoerenza, è tutto molto chiaro. Grazie Mara Bizzotto, europarlamentare della Lega Nord. Adesso abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. Sentite? È l'idea di trasporto su pallet che gira in testa a noi di One Express. Un meccanismo che non perde un colpo. One Express vi garantisce consegne perfette in 24 ore. Cambiate il modo di trasportare le vostre merci con lo specialista del trasporto espresso su pallet. One Express. Precisi dentro. Oh, oh, oh, oh. Babbo Natale al cinema. Mi sono abbonato all'app di Gazzetta Digital Edition. La leggo su PC, iPhone e tutti i tablet. Fino al 15 gennaio, per ogni mese di abbonamento, Gazzetta dello Sport mi regala due ingressi in omaggio al cinema. Vai su gazzetta.it/cinema gratis. Tutti vogliono mettere i propri soldi al sicuro. Mediobanca Atto Unico e l'obbligazione zero coupon a 6 anni quotata sul MOT di Borsa Italiana. Acquistandola a 66,635% avrai un rendimento annuo lordo a scadenza di almeno il 7%. La sicurezza non è mai abbastanza. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di investire nelle obbligazioni Mediobanca Atto Unico, leggere il prospetto disponibile su mediobanca.it. Borse in diretta. Prosegue in negativo la seduta Wall Street con il Dow Jones che cede lo 0,98%, il Nasdaq l'1,03% e lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno l'1,01%. Giornata negativa anche in Europa, anche se le cose erano partite bene sulla scorta dell'asta di bot semestrali che avevano segnato un rendimento del 3,25%, dimezzato rispetto all'asta di novembre. Si guarda adesso soprattutto all'asta di domani, che vedrà anche dei BTP a medio e lungo termine. Quindi Milano cede lo 0,85% sul FTSE MIB, lo 0,75% sul FTSE All Share, male Francoforte che perde il 2,01% e Parigi l'1,03%, mentre Londra chiude con un ribasso dello 0,10%. In una giornata ancora di tensione per quanto riguarda i titoli di Stato italiani, con lo spread tra BTP e Bund a 10 anni a 510 punti e il rendimento dei decennali appena sotto il 7%, negative sono le banche, col Banco Popolare che cede il 3,92%, Mediobanca il 3,27%, la Popolare Emilia Romagna il 2,80% e UbiBanca il 2,6%, male anche Mediaset che lascia sul terreno 3 punti percentuali e Fiat il 2,65%. I titoli migliori, l'Ottomatica, sono arrivati delle indicazioni positive per quanto riguarda il mercato dei giochi in questo 2011, più 2,11%, Campari più 1,56%, Impregilo più 0,77%, Luxottica più 0,66%, euro che quota 1,29,41 contro dollaro. È tutto. Ci sono particolari che lasciano il segno, brillanti mosaici di una chiesa arabo-normanna, ceramiche dai colori strabilianti, un mare cristallino incontaminato, istanti, momenti rapiti a una terra viva e pulsante. È così che nascono i miti. Sicilia, mito in un'isola di luce. Intervento finanziato dall'Unione Europea e dall'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, programma operativo FESR 2007-2013, linea di intervento 331. Le scuderie del Quirinale di Roma presentano Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze del 400. I capolavori di due grandi artisti a confronto sullo sfondo della Firenze di Lorenzo il Magnifico. Filippino Lippi e Sandro Botticelli nella Firenze del 400. Fino al 15 gennaio alle scuderie del Quirinale di Roma. scuderiequirinale.it. La Zanzara. Ieri sera abbiamo ospitato il principe eletto di Filettino, comune, piccolo comune in provincia di Frosinone. Sì, avete sentito bene, il principe Carlo Taormina, un comune che con un referendum ancora in corso in questi giorni punta all'autonomia e rispetto di diventare un'autonomia locale, così come la regione Sicilia o il Bolzano e il Trentino Alto Adige. Taormina è stato eletto principe di questo piccolo aspirante principato e in coda all'intervista su questo delirante, assolutamente delirante secondo me, progetto che non si sa quanto è serio e quanto invece faccia sorridere, ha così, un po' come il personaggio della Pantera Rosa, detto, non detto, maldestramente, sommessamente, lasciato intendere così a proposito di scenari politici futuri. Lui che è stato addentro alla politica nazionale, soprattutto nell'entourage di Silvio Berlusconi per anni, anche se adesso ha abbandonato un po' quel côté, appunto dicendo cose, per esempio su Mario Monti, non sparirà dalla scena politica dopo l'esperienza del governo tecnico. Ma insomma, io non credo che Monti sia destinato a sparire. Io penso insomma che poi ci sarà un problema di gestirsi la questione tra Presidenza della Repubblica e Presidenza del Consiglio, e lì tanto Bersani conta il resto di niente, sempre meno, e vedrà che se la giocheranno loro due. E nemmeno Berlusconi sparirà di scena, perché è destinato a riprendere in mano la situazione politica nel centrodestra, dice Taormina. Sentiamo. Quando una persona invece, secondo me, e le battute di ieri o di oggi, adesso non ricordo, sono estremamente indicative. Io conosco Berlusconi bene, perché lo conosco veramente bene da quando abbiamo iniziato il movimento di Forza Italia, come di quei giocarelli, sai, che quando si spingono le molle poi si rimbalzano sempre più alti. Berlusconi riprenderà in mano, anche perché chi ha intorno, come sempre ha fatto in tutti i suoi 17 anni di potere, è tutta gente che non è capace di farli, sì, appunto, mezza calzetta. mezze calzette, come per esempio, dico io, ma dice anche Carlo Taormina, il segretario attuale del PDL Angelino Alfano, che è sì una brava persona, ma solo quello, dice Taormina. Beh no, Alfano è una brava persona, ma è una brava persona e basta, tutto qua. E poi non è più brava persona nel momento in cui, dovendo essere segretario del principale partito italiano, non fa altro che fare il verso a Berlusconi. E se non c'è autonomia, non c'è indipendenza, non c'è crescita. Così dunque il principe di Filettino ieri sera, Carlo Taormina, qua alla Zanzara. Adesso una precisazione di alcuni ascoltatori che al 349-238-6666, a proposito della citazione di Corrado Guzzanti dal film Il Sorpasso, che lui aveva rivisto in modo satirico con Bossi, Gassman, Tremonti, Trentignan. Io ho detto che alla fine andavano a sbattere, morivano tutte e due. Invece no, per amore della correttezza cinematografica moriva solo Trentignan. Particolare non indifferente nel film, perché era proprio Gassman, cioè Bossi, che voleva portarsi dietro Trentignan. Poi Bossi, Gassman si salva e invece Tremonti va a sbattere nel parallelismo. Va bene, tant'è. 19.38, riprendiamo con voi ascoltatori all'800 24 0024, ne abbiamo molti in linea. Cominciamo da un ascoltatore che chiama da Ferrara, che si chiama, non riesco a leggere correttamente il suo nome, Savris. Sì, buonasera, mi chiamo Fabrice. Savris, perfetto, sì, prego. Niente, io volevo fare un intervento appunto per dire che anche i cittadini ragionano e hanno un cervello per ragionare, e i soldi si potevano trovare non dai soliti noti che sono i dipendenti e i pensionati, ma si potevano trovare anche altre strade o altre soluzioni. Perché per esempio, se siamo arrivati a un governo tecnico è perché la politica ha fallito completamente, o se no non si arrivava a un governo tecnico. Si poteva recuperare per esempio da 1 miliardo di euro che tutti i partiti si sono divisi, dal primo, dal più piccolo al più grande. Si poteva recuperare da 1 miliardo di euro delle slot machine che si stanno condonando e non si è fatta un'asta, si sta facendo un ennesimo regalo. Si poteva per esempio fare un'asta sulle frequenze televisive che si stanno regalando sempre a Berlusconi, come al solito. E si potevano recuperare facendo un accordo come ha fatto la Germania e l'Inghilterra con la Svizzera, tassando 4 miliardi di euro di italiani che sono in Svizzera e facevano 6 miliardi e così via. Si può fare una vera lotta all'evasione che non esiste in questo paese. Questo è il paese delle illegalità, non delle legalità. Se è d'accordo con me, mi dica questo, ecco. No, magari, che ne so, potrebbe contattare i ministri del governo Monti per dare un po' di suggerimenti. No, alcune di queste cose che lei ha detto, per l'amor del cielo, tassare la questione dei capitali all'estero, c'è la questione dello scudo, per esempio, si va a ritassare lo scudo che era stato troppo generosamente fatto da Tremonti, sicuramente con un'aliquota troppo bassa, però bisogna vedere se si riusciranno a recuperare almeno quelli di soldi. Comunque, grazie Savris, sentiamo se le sue provocazioni vengono colte anche dagli altri ascoltatori. Enrico da Napoli, buonasera. Buonasera. Provocazioni, no. Insomma, proposte anche, sì, prego. Il mio intervento, niente, sì, voglio dire, ma ci voleva un Monti per, insomma, per fare sta finanziaria, ma secondo me la poteva fare... Anche lei è del partito di Bonanni, che la poteva fare suo zio. Scusami, si sono tassate le solite cose, sigarette, benzina, insomma le pensioni, è sempre la stessa cosa, ma mica ci vuole una persona stravagata per dire tassiamo, insomma, stravagata, cos'è una persona stravagata? Voglio dire, cioè, è semplicissimo, insomma, sì. Recuperare soldi dalle solite persone, dai soliti, dalla massa. Ma cioè, guardi, però adesso voglio spezzare una lancia a favore delle finanziarie. Sono sempre le stesse misure a cui si ricorre, non è che ci sia possibilità di spaziare molto, Le tasse, volevo dire un'altra, sì, sono sempre cosa. Quelle, sì. In questo periodo, insomma, agevolazione per l'assunzione dei giovani, vabbè, fino a 35 anni, scusate, ma io ho 46 anni, sono stato licenziato, lo sai quando vado a fare i colloqui cosa mi chiedono, la prima cosa, l'età, perché hanno gli sgravi, insomma, per gli ultra quarantenni praticamente è finita, nessuno investirà, insomma, su loro, e quale azienda, insomma, a parità, insomma, sceglierà una persona di 45-50 anni? Voglio dire, insomma, si va a agevolare proprio praticamente veramente sacrando delle fasce di popolazione che saranno veramente gli straccioni dell'Italia del domani, I soliti nodi che vengono tassati, insomma non ci sta futuro per i giovani, ed è vero, e non si riesce a investire insomma su altro, insomma si pensa solo a tassare. Solo a va bene, tassare. Grazie Enrico, grazie. Andiamo a nord, a Milano, da dove ci chiama Francesco. Buonasera. Sì, pronto, buonasera. Prego. Io torno leggermente indietro perché avevo chiamato precedentemente facendo riferimento a quello che aveva detto Ferraro in merito a Liberazione. Ferrero, il segretario Ferrero, Paolo sì. Ferrero, sì. Mi rendo conto che comunque non farò mai il politico perché vuol dire rinnegare la propria intelligenza fare il politico, perché quello non capisco come poteva non raggiungere, non capire quanto era paradossale e assurdo quello che diceva. Io faccio il manager per una piccola azienda e viviamo i problemi legati al fatto che il mercato ha i problemi che ha, ci aumentano le tasse, aumentano i trasporti, la benzina, tutto quanto, non siamo concorrenziali nei confronti degli altri e dell'estero, non possiamo licenziare, non possiamo modificare le nostre politiche di assunzione o di gestione del personale, abbiamo i sindacati sempre addosso che ci massacrano per qualsiasi iniziativa cerchiamo di fare per far sopravvivere l'azienda, investiamo noi stessi, la titolare più io e altre persone e che hanno c'entra Ferrero in tutto questo? C'entra nel fatto che loro lo chiudono, loro tranquillamente chiudono, lasciano una persona a casa soltanto perché il mercato giustamente punisce il loro giornale che è invendibile e non lo comprerebbe nessuno, e solo perché vivevano grazie ai sussidi statali che non gli danno più. E pretende addirittura una norma per cui della gente sia obbligata a mettere la pubblicità sul suo giornale per mantenerlo sul mercato. Allora io voglio una norma che imponga ai cittadini di comprare il mio prodotto, così anche la mia ditta rimane sul mercato, perché è assurdo. Cioè loro chiudono tranquillamente, non hanno problemi con i sindacati, non hanno nessun tipo di difficoltà, mettono la gente dove l'hanno messa, non lo so, soltanto perché non hanno più i finanziamenti. Noi che dobbiamo lottare contro uno Stato che comunque cerca di danneggiarci in tutti i modi, in più non abbiamo neanche la possibilità di fare una politica aziendale di gestione del personale per farci sopravvivere. Siamo costretti a morire. Sì, premesso che in linea di massima sono sostanzialmente d'accordo con lei e il fatto che è contrario quindi ai finanziamenti pubblici, ai giornali, però bisogna ricordare anche la ratio di quella norma. La ratio della norma del finanziamento a certa stampa è quello di favorire il pluralismo. Non mi riferisco solo a Ferrero, a Rifondazione, ma ci sono infiniti giornali di partito. Forse il problema è che poi ce ne sono troppi. Fatta la legge, trovato l'inganno, come accade spesso in Italia. Non è d'accordo anche lei che l'informazione non vada trattata alla stregua di qualunque altro prodotto, diciamo, lasciato così alle pure regole del mercato? Sono pienamente d'accordo. Il problema è che il personale, i dipendenti di chi lavora anche nel settore dell'informazione politicizzata devono avere lo stesso trattamento e gli stessi diritti che hanno gli altri lavoratori. Allora a questo punto, se per qualche ragione, giusto o sbagliata, si modifica la norma per cui non hanno più i finanziamenti e non possono stare sul mercato perché commercialmente non riescono a reggerlo e perché hanno un prodotto politicizzato, hanno un prodotto particolare, diverso, che mira a mantenere il pluralismo, non possono però permettersi di trattare il loro personale tranquillamente come se niente fosse, chiudere l'azienda e impedire che la stessa filosofia nei confronti del personale venga applicata anche a chi invece sta sul mercato per altro motivo, perché qui io sono contrario al finanziamento pubblico, è d'accordo, ma qui si sta parlando di un'altra cosa. Stabilito il fatto che per qualche ragione politica si decida di non finanziarli più e non possono restare sul mercato, hanno e vivono come azienda gli stessi problemi che vive la mia azienda, che ha delle difficoltà perché il mercato è impazzito, perché il mercato ha delle difficoltà, perché tutta la contingenza, specialmente italiana, mira a favorire le ditte straniere e non le interne. A questo punto sono i dipendenti che devono essere gestiti nella stessa maniera, perché non posso licenziare anch'io? Perché non posso decidere di chiudere un settore della mia azienda, licenziare tranquillamente e dire questo qui non funziona più, loro non funzionano più perché non hanno la pubblicità, non hanno i finanziamenti, la mia non funziona più perché il mercato non è più ricettivo come una volta. Ma questo lo può fare, non è che non può chiudere l'azienda, c'è un'avvertenza sindacale, infatti per quanto riguarda il quotidiano Liberazione, e poi vedremo come va a finire, non è che la chiusura sia... abbia una speciale indennità sulla chiusura di quell'attività economica, e tra l'altro Ferrero parlava di sospensione, ma tant'è. Eccoci ritrovati 19.47 con gli ascoltatori che sono in linea, e allora diamo la parola a Duilio che chiama da Firenze. Buonasera. Buonasera. Senta, io una constatazione semplice, ho fatto due conti da ex dipendente bancario. I commessi della Camera e del Senato e quelli del Quirinale guadagnano meramente oltre 200 euro l'ora, perché fanno meno ore e pigliano un mare di soldi. Possibile che tutti i giorni non lo possiate ripetere questa gente la guadagna 200, più di un primario, guadagna più di un... È una cosa inammissibile, è una cosa inammissibile, cascano tutti sotto silenzio, nessuno lo dice, perché se io fo 200.000 euro l'anno, diviso l'ore che fanno, e poi saranno 700-800, non gli viene oltre 200 euro l'ora. Nulla, volevo dirvi questo e basta. Va bene, grazie, Duilio l'ha detto. E va bene, andiamo a Massimiliano che ci chiama da Milano. Non che, che non, non si sottolineano gli sprechi, credo, dai microfoni di Radio 24, insomma. Ma vabbè, insomma, sono sfoghi naturali degli ascoltatori che ce l'hanno sul groppone e la devono dire, giustamente. Massimiliano, buonasera. Sì, buonasera. Alcune considerazioni velocissime. La prima è che mi sembra che questo governo, pur essendo un governo tecnico, così dicono, comunque parli troppo. Sarebbe stato più interessante diminuire anche le apparizioni televisive. Cosa vuol dire parla troppo il governo? Sta troppo in televisione, adesso meno perché evidentemente è Natale anche per loro e sono le feste. Però ma chi? Guardi, Monti ci è andato una volta sola in televisione, no, da porta a porta. Monti è andato porta a porta, poi ha fatto la conferenza stampa, poi ha fatto la Fornero. Cioè, secondo me è stato troppo, si poteva fare cosa di ha fatto meno. La Fornero? Cosa ha fatto la Fornero? Le lacrime. Non ma era una conferenza stampa però, non era in televisione. Però io ho trovato che comunque questo fosse comunque... mi è sembrato eccessivo. Ma dove? Io non capisco dov'è che ci sono questi erano dovunque. Ministri in televisione. Erano a Ballarò, erano... Vabbè, ma è normale, a Ballarò, scusi, sono trasmissioni che vivono sui politici da anni, che ci sia Prodi, Berlusconi o Monti, cosa fanno? I politici non vanno più, i ministri non vanno più in televisione a Ballarò. Mi perdoni, se no allora non è un governo, cioè, se un governo è tecnico. Vabbè, il tecnico non vuol dire che deve star zitto, vuol dire che non è di origine politica. No, non è che deve star zitto. Beh, però lei si ricorda, lo sa meglio di me, perché sì, c'è stata polemica sui giornali, perché sembrava che Monti andasse prima da Vespa e poi dopo alle sedi più opportune a raccontare... Sì, ma non è successa questa cosa qua. Certo che non è successo. Sì. No, il ragionamento finiva in questo modo. Sì. Era un tentativo di recuperare la politica, che mi sembra invece che sia sempre, come dire, in quest'ultimo periodo messa al bando come se fosse una sorta di, come dire, incarnazione di Satana. C'è stato il provvedimento dell'IMU che è uscito dal Consiglio dei Ministri in un certo modo e grazie alla politica, se il provvedimento dell'IMU rispetto a una categoria molto particolare come le famiglie numerose, però se quel provvedimento è cambiato, però è grazie alla politica, quindi io ci tenevo a, come dire, spezzare una lancia in favore di questa tanto vituperata politica che invece tutti sembrano oggi schifare e invece mi sembra che tutto sommato qualcosa sia in grado ancora di combinare. Guardi, noi non la schifiamo al punto che abbiamo ospite un altro politico, Leo Luca Orlando dell'Italia dei Valori, buonasera. Buonasera. Allora Orlando, lei candidato alle primarie per l'elezione a sindaco a Palermo per il centrosinistra, è così? Assolutamente no. No. Assolutamente no, quella ragione è molto semplice. Sì. Io ho ritenuto che fosse opportuno che le primarie non venissero trasformate in una fiera delle ambiguità. Sì. Abbiamo chiesto al Partito Democratico che dica con chiarezza che le primarie sono riservate a candidati che non faranno accordi con il partito di Lombardo e col Terzo Polo né a primo turno né a pallottaggio. Lo sapevo io che si scivolava già sulla prima domanda, perché già l'argomento PD centrosinistra è frutto di mille divisioni. Poi se questo lo contestualizziamo a Palermo in Sicilia, che è la terra, diciamo, del barocco e quindi anche delle sfumature e anche degli inciusci e anche degli inciusci delle opposizioni forti, sì, a cose indifendibili come appunto, cioè, Diventa un casino, sì. No, è chiarissimo, è successa una cosa assolutamente talmente chiara, sì, perché è assolutamente impensabile che possa accadere. Quindi le primarie, allora, partiamo con i dati di fatto, perché io ho dato per scontato un po' di cose. Il Partito Democratico. Ci sono le primarie o no, prima di tutto? Facciamo dei punti. A noi non ci interessano più. No, no, però mi interessa sapere. Sì. È un problema del PD che ha problemi interni e vuole risolvere i suoi problemi interni attraverso le primarie. Il Partito Democratico in Sicilia, lo diciamo, sì, a chi non fosse informato, da un anno sostiene il governo Lombardo. Non avete sentito male, sostiene il governo Lombardo. Infatti su questo volevo arrivare, perché ce n'è da dire sul governo Lombardo. I consiglieri regionali, sì, si chiamano deputati regionali del Partito Democratico, danno il sostegno in base al quale Lombardo resta. E questo per voi è dirimente, ho capito. Lombardo, ci arriviamo, Orlando, però non facciamo a chi parla di più. Appena 3 anni fa. Non facciamo. Tutto questo. Se parlassimo poco tutti, ma dicendo le cose vere. Ma tutto questo, questa ambiguità è nata perché io volevo commentare, non ci siamo ancora arrivati, una notizia, credo di oggi, di un sondaggio fatto, credo, dalla SVG, che dice che A Palermo, se si votasse per le primarie del centrosinistra, e ci, lei ride, però è così, però mi faccia finire, lei è svelto di parola, però vincerebbe la Rita Borsellino con qualche punto di distacco su di lei. Allora, prima di tutto le chiedo di commentare questa notizia. Ma intanto ho già inviato una lettera all'SVG per chiedere chiarimenti a norma di legge su questo sondaggio. Addirittura, il sondaggio perché già... perché questo è un sondaggio che smentisco. Credo che non esista, ma mi assumo la responsabilità. Ma l'SVG di Trieste credo che sia un istituto serio. Infatti scriviamo all'SVG per avere chiarimenti su questo sondaggio, e comunque si tratterebbe di un sondaggio che è riferito a chi partecipa alle primarie. Io da mesi ho dichiarato che non partecipo alle primarie. Vabbè, era diciamo allora un esercizio. Devo ritenere che c'è un 40% degli elettori del PD che vota per me e non per un candidato del PD, ancorché io non sia questa candidato. Questa non è una novità, primarie. Perché anche a Milano lei sa che ha vinto Pisapia, che non era un risultato straordinario. Però Orlando, la invito a non sottovalutare questa ipotesi, perché come sa, a Milano ma anche a Napoli alla fine hanno vinto candidati del centrosinistra, non del PD, però poi sostenuti dal PD, quindi questa è un'eventualità che potrebbe portarle, essere ben augurante per lei, sì. Però lei ha detto, questo credo che l'abbia detto, che se il candidato sarà Rita Borsellino, candidato scelto dal PD sulla base di un accordo politico anche con voi, lei è disposta a fare un passo indietro. No, ho detto ho detto una cosa un po' diversa, ho detto per me è importante evitare che a Palermo possa diventare sindaco qualcuno che porta con sé forze politiche e persone che hanno sostenuto il primo governo Cuffaro, il secondo governo Cuffaro, sostengono Lombardo e sono stati in giunta con l'attuale sindaco Cammarata. E questo però credo che Rita Borsellino su questo sia abbastanza d'accordo con lei. Assolutamente d'accordo con me, tra l'altro abbiamo uno straordinario rapporto. E quindi il problema è nel PD. Io ho chiesto a Rita Borsellino una cosa molto chiara, sì, che lei, se dovesse essere candidata, lei deve essere una candidata che dice no ad un partito democratico che vuole fare l'accordo. Quindi come sempre il PD potrebbe provare a vincere le elezioni grazie a candidati che non fanno quello che il PD vorrebbe, sia lei che la Borsellino, perché il PD adesso sostiene, è al governo con Lombardo. Parliamo un attimo di questo, perché ci sia un elenco di notizie, Orlando, da commentare. Per esempio l'ultima è questa dei 1600 assunti che il commissario di Stato ha bloccato, questa legge prenatalizia. Lei è al corrente di questa notizia? Come la commenta? Sì, sono al corrente, è l'ennesima fittata che viene fatta da questa maggioranza, la quale sostanzialmente, l'attuale maggioranza, che è poi una strana maggioranza fatta dal Partito Democratico e dal Lombardo e dal Terzo Polo, che alle elezioni che ha eletto questa assemblea attualmente in carica erano alternativi. Alla faccia dell'alternativa. Non è stata votata all'unanimità questa cosa, cioè quindi... Sì, è la solita furbata dei politici siciliani che fanno una cosa sapendo che è illegittima e che verrà annullata. Ma quindi anche dall'Italia dei Valori? No, non siamo presenti. Non siete presenti con nessun consigliere? No, non siamo presenti con nessun consigliere, quindi siamo fuori da questo mercato. Però tutti gli altri l'hanno votata, ed è una cosa che, insomma, vista da fuori, poi se l'ha detto anche il commissario di Stato, non c'erano i fondi per fare queste assunzioni. Perché dimostra che c'è stata un'ennesima presa in giro, perché il problema del precariato va risolto, io sono il primo ma non va risolto né facendo tutti i cavalieri, né meno che mai facendo un provvedimento privo di copertura finanziaria. C'era un'altra norma che era la cosiddetta salva parenti, un'incompatibilità che era stata votata prima dell'estate, sempre dall'Assemblea siciliana, incompatibilità tra parenti in consiglio e in giunta comunali e credo anche provinciali. E poi ha spuntato un emendamento nelle ultime ore, poco prima di Natale, anche qua, che sembrava rimandare tutto. Credo che la notizia di oggi, non so se lei è al corrente, che l'emendamento è stato respinto e quindi dovrebbe entrare in vigore questa incompatibilità tra parenti, che mi sembra anche questa una cosa sulla strada giusta stavolta. Mi sembra una cosa di elementare buonsenso, evitare che in una stessa giunta ci sia il padre e il figlio, uno come sindaco e l'altro come assessore. Senta Orlando, adesso commentiamo un po' anche magari l'attualità politica nazionale con questa fase 2 di Monti, però prima facciamo una piccolissima pausa. Orlando, l'UDC siciliana ha tolto il sostegno, poi finiamo con le cose locali, parliamo un po' di politica nazionale, alla, almeno questo sembra di capire, alla giunta di Lombardo. Per andare dove, secondo lei, l'UDC? Cioè per riposizionarsi col PDL oppure pure no? Io devo stare alle dichiarazioni che ho letto, mi sembra di capire che l'UDC sia sostanzialmente uscita da questa, ha tolto il sostegno a Lombardo perché vuole fare un governo lombardo più lombardo, cioè nel senso che vuole che sia un governo politico. Negli ultimi mesi abbiamo in Sicilia un finto governo tecnico, tanto è poco tecnico che l'UDC ha detto noi non vogliamo più un governo fatto di tecnici, vogliamo un governo politico, pertanto il nostro tecnico si dimette per seguire le indicazioni del nostro partito, che sta a significare che era un finto governo tecnico, adesso vogliono fare un vero governo politico. Senta Orlando, ancora una cosa su Palermo, mi è venuta in mente adesso, lei dice giustamente per esempio sull'incompatibilità delle parentele nelle giunte, nei consigli comunali, va bene, lei addirittura è parente con se stesso, quello che ha già fatto il sindaco, qualcuno potrebbe dire ma perché Orlando vuole rifare il... Allora, c'è un tempo mio corso, io il sindaco l'ho già fatto, io credo che sia giusto che lo faccia qualcun altro, però quando mi accorgo, come lo sto accorgendo, che si vuole consegnare questa città agli stessi barbari che l'hanno massacrata, io che stavo in panchina ho deciso di scendere in campo. Senta, veniamo al governo, insomma voi siete molto scettici su questa, sia sulla fase 1 che potrebbe cambiare qualcosa tra la fase 1 e la fase 2 nelle vostre aspettative? Ma noi abbiamo votato no alla manovra, alla prima manovra, al primo provvedimento del 6 dicembre, perché abbiamo ritenuto che fosse una manovra iniqua, sperequata dal punto di vista sociale, che non affrontasse i problemi della crescita, che di fatto avesse un effetto recessivo. Adesso con i provvedimenti ultimi in Parlamento continuiamo la nostra battaglia per recuperare quell'equità sociale che pure il Presidente Monti aveva detto essere un obiettivo del suo governo e per recuperare elementi di crescita che pure il Presidente Monti aveva detto essere uno degli obiettivi del suo governo. Se ne abbiamo appena parlato, a Palermo i rapporti tra voi delle TV e il PD sono complessi, a livello nazionale sono, non lo so, sono compromessi? Perché per esempio io leggo una dichiarazione di oggi di Merlo, che è membro del Partito Democratico, non credo, si chiama Bersani ancora, no? Sì, no, Merlo che è un esponente comunque della Commissione di Vigilanza Rai, non c'entra nulla, ma insomma lui dice, tanto anche lei forse nella Commissione di Vigilanza Rai. No, io avrei dovuto essere presidente, ma insomma è una storia. Lui dice che conferma come nel nostro paese c'era un governo che pretendeva di scegliere chi fosse il rappresentante dell'opposizione. Io ero rappresentante dell'opposizione, sì. Ma il governo Berlusconi non capiva che fossi io a presidere quella commissione. Vabbè, ma insomma Merlo dice oggi, per quello che conta, che meglio con Casini che con Di Pietro, basta l'alleanza con Di Pietro. Beh, mi pare che noi siamo convinti, fermamente convinti, come l'Italia dei Valori, di dover costruire un'alleanza aperta, ma che abbia come punto di partenza Italia dei Valori, SEL e il Partito Democratico. Consideriamo strategica l'alleanza con il Partito Democratico, dopodiché... Ma ecco, il problema, il punto è questo però, Orlando, questa è la vostra intenzione, ma al termine o comunque con questo governo tecnico in corso, questa ipotesi si allontana un po', perché avete scelto due strade diverse. Noi continuiamo a perseguirla fino in fondo, convinti come siamo che le battaglie che noi stiamo facendo per l'equità e le battaglie che facciamo per la crescita, se non ci fosse nessuno a farle, bisognerebbe inventare tali valori perché le facesse. Voglio dire, non si può lasciare al scomposto comportamento di un partito regionale come la Lega, sì. l'unico compito parlamentare di rappresentare i milioni di italiani che vogliono più equità. Ma se per caso diciamo il Partito Democratico seguisse questa strada di sostegno a governi diciamo di grande coalizione, governi istituzionali, governi di centro, voi alle prossime elezioni potreste presentarvi anche con quei partiti che diceva prima, cioè con SEL, magari addirittura con Rifondazione? Noi stiamo parlando di questo governo Monti è un governo che nasce dall'emergenza, è un governo che non realizza il governo della politica. Se mi è consentito un paragone, è come il governo Badoglio, Il governo Badoglio è certamente molto meglio del governo Mussolini, ma non è il governo democratico del paese. Io credo che bisogna al più presto andare a nuove elezioni e avere un governo democratico del paese. In questa fase di transizione noi non facciamo né siamo in maggioranza né siamo in opposizione, noi ci limitiamo a sostenere le nostre posizioni, che sono le stesse che sostenevamo sulle frequenze televisive, piuttosto con riferimento alla patrimoniale, quando c'era il governo Berlusconi. Sarebbe singolare che quello che noi non consentivamo a Berlusconi di fare, che criticavamo quando Berlusconi faceva, adesso con la faccia assolutamente rispettabile di Monti le accettiamo. Senta, una cosa che se facesse Monti la votereste, adesso che si parla di liberalizzazioni, di crescita e di altre, di questa fase 2? Ma io credo che sia assolutamente necessario procedere alle liberalizzazioni. Quello che non possiamo consentire è che qualcuno immagina di poter fare carta straccia del referendum che diceva che l'acqua è pubblica e deve essere pubblica. Quindi liberalizzazioni, ma non sul terreno del, per esempio, i servizi pubblici locali, perché si parla anche di questo. Cioè, di mezzo c'è anche l'acqua, però lì c'è stato un referendum, quindi può darsi che su quello non si operi. Sulle liberalizzazioni voi potreste dare il vostro voto? Assolutamente sì, se sono liberalizzazioni fatte con criterio e non sono liberalizzazioni selvagge, che conservano la distinzione che deve esistere sempre fra Stato e mercato. Noi siamo convinti che il mercato deve fare mercato, ma solo deve fare Stato. Purtroppo negli ultimi tempi abbiamo avuto troppo Stato nel mercato e troppo mercato nello Stato. Altre cose di cui si leggono anticipazioni, domani ci sarà una conferenza stampa, forse sapremo qualcosa di più, che potreste spingervi a votare di questa fase 2? Tutto quello che corrisponde alle cose che abbiamo elencato in occasione del voto di fiducia. Voglio ricordare che mentre le altre forze politiche hanno votato un ordine del giorno che diceva, hanno proposto un ordine del giorno che diceva puramente e semplicemente lettere di dichiarazione del Presidente Monti le approva, noi abbiamo fatto precedere a questa nostra dichiarazione una serie di punti che riguardano esattamente i temi dell'equità sociale. Siamo convinti che bisogna elevare il peso fiscale, sì, nei confronti dei capitali scudati. È una vergogna che il pensionato che abbia pensioni minime paga dal 23% in su di imposta ogni anno, e chi li ha fatti entrare, avendo tenuti per tanti anni senza pagare alcuna imposta, li fa rientrare con un 5% e rimane anonimo. Questo è uno scandalo etico. Le varie misure ci fosse, siamo convinti che occorre mettere mano, piuttosto che Alice, l'abbiamo detto, era molto più seria una patrimoniale sui grandi patrimoni, che fosse una patrimoniale stabile, poliennale, non una tantum che creava evidentemente possibili speculazioni di mercati. Siamo convinti che bisogna in tutti i modi sostenere le piccole e medie imprese. La questione delle frequenze TV, secondo lei, alla fine passerà, la riaprirà o no? Ma io credo che questa per noi è una discriminante, l'abbiamo detto con molta forza. Una delle ragioni per le quali non abbiamo votato la manovra nei giorni passati è che in quella manovra non era inserito, come noi avevamo chiesto, che ci fosse l'asta per le frequenze televisive. Grazie, buona serata alle Luca Orlando. Grazie, buona serata. Ben ritrovati in diretta, cari ascoltatori. Prima di tornare ai vostri interventi, titoli del TG1. Bene l'asta dei bot, rendimenti al 3,2% dimezzati rispetto a novembre. Lo spread prima frena, poi torna sopra i 500 punti. Monti prepara la fase 2, Consiglio dei Ministri su sviluppo e crescita, entro gennaio i provvedimenti, PDL e PD incalzano l'esecutivo. Corea del Nord sotto la neve, l'ultimo saluto al caro leader Kim Jong-il, migliaia di persone in lacrime al passaggio del feretro. Calcio scommesse smentita dei PM, non ci sono azzurri, al TG1 trapattone amareggiato, all'estero ci vedono truffaldini. Istat, tra 50 anni in Italia stranieri triplicati, cresceranno gli ultra 65 anni e l'età media sarà più alta. Il vandalismo sui treni italiani è un danno enorme che paghiamo tutti, 12 milioni di euro l'anno per la sola Lombardia, siamo andati nella più grande rimessa d'Italia dove ogni giorno lavorano 500 operai addetti alle riparazioni. Così il TG1, adesso i titoli della 7. Aruba, i bot oggi messi all'asta dal tesoro, collocati 9 miliardi di buoni a 6 mesi con rendimenti a 3,2%, dimezzati rispetto a novembre, ma lo spread resta sopra i 510 punti. Piazza Affari chiude in leggera perdita e fa i conti con un anno nero, nel 2011 perso un quarto della capitalizzazione. In 3 ore il Consiglio dei Ministri vara la fase 2 del suo mandato. Contiene misure per la crescita, nuove liberalizzazioni, provvedimenti per il lavoro, ma anche un piano di dismissioni per ridurre il debito pubblico. Domani, nella conferenza stampa di fine anno, Monti le illustrerà facendo un bilancio di poco più di un mese a Palazzo Chigi. Ma i due maggiori partiti continuano a fare il loro pressing sul governo dei professori. Il PDL preme per evitare nuove imposizioni fiscali e invoca più mercato. Nel PD molti dirigenti continuano a chiedere più equità e misure per le famiglie. Il terzo polo di Casini, senza se e senza ma, sostiene Monti. 2 anni e mezzo fa, la notte del terremoto in Abruzzo, in un'intercettazione l'imprenditore Francesco Piscitelli rideva delle scosse, degli affari che ne sarebbero derivati. 2 giorni fa è atterrato in elicottero su una spiaggia per andare a pranzo all'Argentario. Ora l'ENAC gli ha sospeso la licenza di volo. Altissima tensione tra Stati Uniti e Iran per ritorsione contro le sanzioni internazionali. Il regime islamico di Teheran minaccia di chiudere alla navigazione lo stretto di Hormuz, via d'accesso al Golfo Persico e al traffico petrolifero. Washington replica dura: non lo tollereremo. Sarà più vecchia e più popolata di immigrati l'Istat, disegna l'Italia del futuro. Entro il 2065 un italiano su 3 avrà più di 65 anni. La popolazione tornerà a calare, solo il 54% sarà in età lavorativa e i cittadini con origini in altri paesi saranno 14 milioni, un italiano su 4. Calcio scommesse, la procura di Cremone smentisce il coinvolgimento di Buffon, Cannavaro e Gattuso citati in una intercettazione. Chiacchiere da bar, dice il PM, nell'inchiesta il nuovo pentito. E Carlo Gervasoni, una vita in squadre minori, che ora parla di partite truccate in Serie A. Ho sentito che nei titoli della 7 si diceva Piscitelli, ma in realtà l'imprenditore è coinvolto in questa vicenda dell'elicottero, gli è stata tolta la licenza. Fortunatamente, dico io, si chiama Piscicelli, almeno credo, e così anche il TG1 forse era incappato in questo errore. Ascoltatori, Giuliano da Pisa, buonasera, dalla provincia di Pisa. Sì, buonasera. Prego. Senta, io avevo telefonato perché ho sentito l'onorevole lì della Lega, ora non mi sfugge il nome in questo momento, che è anche un europarlamentare. No, detto, ma Mara Bizzotto, sì, Mara Bizzotto. Sì, onorevole Bizzotto, ma questi onorevoli sono europarlamentari, ci vanno anche a rappresentare all'Europarlamento con le idee che hanno. Voglio dire, è stata 8 anni al governo. Cioè, ci ha portato in questa situazione e poi è colpa degli altri. Non so, o ci prendono tutti per scemi, non so cosa ci vengono a raccontare. E io gliel'ho detto alla Bizzotto che c'è un cambio di atteggiamento della Lega in questo periodo, da quando è all'opposizione, anche questa cosa su Napolitano, di non ascoltare il discorso, di boicottarlo. Prima c'era invece un certo feeling col capo dello Stato, adesso che è all'opposizione. È evidente che la Lega sta cercando di rifarsi una verginità politica all'uscita da questa esperienza di governo. La politica è fatta anche di questo. Tutto sta a vedere se gli elettori ci cascheranno o ci crederanno. E questo poi rientra nella libertà di giudizio e di voto di ognuno di noi. Aldo da Roma, buonasera. Prego. Allora, grazie dell'opportunità innanzitutto, per non abusare della vostra disponibilità e pazienza, andiamo subito al dunque, anche se devo fare una piccola premessa. Allora, ci sono grosso modo vari motivi perché io facessi questa telefonata, poi forse lo capirà, ma comunque non l'avrei fatta, questo tengo a sottolinearlo e lei sarà sorpreso, se in questi giorni non si parlasse più non ho ancora capito di nulla, liberalizzazioni. Sì, sì. E non me ne voglia il signor Cassini. Il signor Cassini, lei se lo ricorda, no? Casini, no. No, il signor Cassini, lei l'ha intervistato. Ah, Oliviero Cassini, sì. È uno dei uno operaio che è sulla torre. Che sì. Sta in quella torre. Sì. Alla stazione centrale di Milano a protestare contro questi 800 licenziamenti, 800 persone, 800 famiglie, qui va il mio pensiero di profonda solidarietà ovviamente, e anche un caloroso augurio perché possono presto risolvere positivamente la loro drammatica situazione. Allora, è una materia molto complessa, dottor Maurizio. Io però non ho capito cosa voleva... Ah, ma senta, allora io voglio parlare della soppressione dei treni notturni. Quella soppressione, scusi, pensavo che ci fosse stata una introduzione da parte vostra. Allora, volevo parlare di quella soppressione dei treni notturni che ha dato luogo a 800 licenziamenti. Sì, e qual è la sua opinione su questo? Allora, certo, è una materia molto complessa, rischiamo di fare, per sintesi, rischiamo di far arrabbiare molte persone, ma proviamo in realtà di fare un piccolo miracolo. Sì, perché sennò invece se andiamo lunghi facciamo arrabbiare tutti gli ascoltatori. Confido moltissimo sulla sua bellissima professionalità. Lei si domandava l'altro giorno quali erano i motivi di questo tragico evento. Allora, i motivi, quelli lapalissiani, diciamo così, i viaggiatori continuano a scarseggiare, i conti sono sempre più in rosso, d'altra parte il governo, lei sa, ha eliminato dal prossimo anno quel contributo che dava a questi treni, per questi treni, perché riconosceva in essi un valore sociale, e quindi, tenuto conto della continua e aggressiva concorrenza del low cost e poi l'alta velocità che adesso permette di sì, va bene, abbiamo capito. Allora, a questo punto, rientra tutto nella categoria fine delle sovvenzioni, un po' come i giornali di partito di Ferrero. Quindi chiudiamo questo intervento per dire che, questo servizio è un servizio complesso, è un servizio che andrebbe liberalizzato, ma liberalizzato cioè incentivando i privati, perché è un servizio alberghiero dove le reti ferroviarie si trovano a mal partito perché sono imprese ferroviarie che protese verso diciamo il traffico diurno, quindi sarebbe da mettere assieme varie imprenditorialità finalizzate. Vabbè, insomma, grazie, tempo scaduto, basta, la vicenda è complessa, però devo dire che lei non ci ha aiutato a capirci molto di più. Traffico. Ci spostiamo in provincia di Udine, da dove ci chiama Mario all'800 24 00 24, ancora uno spicchio di trasmissione per i vostri interventi in diretta. Buonasera Mario. Sì, buonasera, buonasera a tutti, buone feste. Prego, grazie. Io volevo dire qualcosa all'europarlamentare della Lega. Io sono un elettore della Lega, però mi sono veramente deluso, ma deluso forte, perché sì, non c'hanno tanto adesso, ma non hanno fatto niente. Potevano fare quando era il momento di fare, secondo me, insomma. Io, questa è la mia modesta opinione. Continuerò forse a dare il voto alla Lega, nella speranza che facciano qualcosa, però una volta che sono arrivati lì vedo che diventano tutti uguali, insomma, secondo me. Vorrei il suo parere, la ringrazio. Grazie. No, il mio parere è presto detto. È chiaro che quando si sta dentro le stanze del potere è lì che bisogna fare qualcosa. La Lega era al governo fino ad oggi, ha fatto quello che ha ritenuto di fare dal suo punto di vista. È chiaro che adesso sono un po' dissonanti queste grida, per esempio di Cota, che dice che il governo Monti ha affossato le famiglie e le imprese. Forse ce l'abbiamo, possiamo magari anche sentirlo, Roberto Cota, presidente della regione Piemonte, insomma, che il governo Monti in un mese abbia affossato più di quanto la crisi non abbia colpito già le famiglie e le imprese in questi anni di governo PDL, Lega, è un po' difficile crederlo. Cota, sentiamolo. Il governo Monti ha una grave responsabilità, perché prima ha fatto credere che avrebbe salvato la situazione e poi ha affossato con la manovra le famiglie e il sistema produttivo. Vista la fase 1, sono molto preoccupato per la fase 2. Insomma, io questo è quello che penso. Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera, dottor Maurizi. Lei è un vero professionista. Comunque, grazie. Vengo subito al dunque. Sì. Mentre aspettavo, mi sono dovuto sugare quella specie di politico. Ha dovuto sugare chi? Sì, stavo per andarmene, perché sto in ufficio a lavorare, c'è una piccola impresa, sono geometra, no? E le stupidaggini che ha detto quello là della Sicilia, come si chiama? Non mi ricordo. Leo Luca Orlando? Sì, ma perché questo signore non si dimette? Sono 40 anni che sta in politica, andasse a lavorare. Poi io volevo dire un'altra cosa, no? Sì. Ha parlato, oggi ha fatto la passerella all'altro compagno là, come si chiama? Ferrero, quello là. Sì. Che stampavano 26.000 giornali e 25.000 li buttavano. No, un momento. Sì, no, sì. Quasi 30.000 erano la tiratura, 5.000 erano le copie vendute. Chi pagava, scusi? Sì. chi pagava? Pagava Pantalone, sì, esatto, Pantalone. Pagava lo Stato. Ok, adesso io mi auguro una sola cosa: io ho una piccola impresa, ho due figli disoccupati, uno studia a Milano, e gli ho detto stati a Milano, non ci tornare in Abruzzo. Io volevo dire a questi sindacalisti, a cominciare dal nostro paesano Bonanni, no? Che si mette lì a fare la passerella, ma quando va a lavorare lui si sta preparando perché vuole fare il politico, come Cofferati, no? Andate a lavorare, questi qua ci hanno ridotto come la Grecia. Io mi auguro che i nodi vengano al pettine, perché qua non si parla di dipendenti pubblici come in Grecia, 1 milione in meno di dipendenti pubblici e abbiamo risolto il problema, ok? Va bene, 1 milione in meno di dipendenti pubblici, speriamo di non arrivarci alla situazione greca, però non lo so, c'è una stima, una statistica su quanti dipendenti pubblici ci sono in Italia rispetto agli altri paesi, perché anche questa forse è un po' una vulgata, non lo so, poi magari alla fine scopriamo che siamo nella media europea e il problema è che non funzionano bene gli apparati pubblici, non che ce ne sono troppi di dipendenti. Tina, dalla provincia di Roma, da Roma, buonasera. Buonasera, auguri. Auguri anche a lei, grazie. E speriamo l'anno prossimo sarà un anno per destino, sarà meglio di questo e quell'altro, va bene? Certo. Perché ogni anno dico speriamo l'anno prossimo sarà meglio. E vorrei fare una raccomandazione per Cruciani. Sì. Gli regalo 1.000 euro, basta che allunga la sua vacanza. Non l'avrà chiamato per questo, però. Non l'avrà chiamato per questo o era proprio questo? No, io vorrei chiamare per diverse cose riguardo Carlo Taormina, sì? E il suo principato di Fillettine. Ma quanti sono animi? 500, 600? 500 e rotti, sì. Ebbene, e poi chiappa qualche comune. Ma quanti, con quanti banchi lui si metterà d'accordo? Avete capito la mia battuta? Sì, no. Abbiamo la Repubblica San Marino. Sì. E ci abbiamo il Principato di Monte Carlo. Cosa vuole fare? Ah, ho capito. Lei dice vuol creare un'altra area di come dire, elusione fiscale. Bravo. Hai capito? Perché oramai io non dormo la notte per pensare cosa vogliono fare questi politici. Ah, cioè lei è lì che cerca di capire da tutte le parti che sì, ognuno sì, oramai che... non mi fido più, sì. Guardi, io mi fido solo della mia ombra, nemmeno della mia camicia, di questa gente qua. Poi io Mario Monti, ora il governo tecnico, ho visto Fornero da Lucia Annunziata. Ho visto Passera da Fabio Fazio, che tempo che fa. Monti è stato da Porta a Porta, ma questi non devono lavorare. Ma non ci hanno stufato quelli sì, altri. Sì, però scusi politici. Tina, ma l'abbiamo detto sempre anche prima, i politici è giusto che vadano anche a parlare nelle trasmissioni. Ma so troppo. Per spiegarci. Scusa. È troppo, quando lavorano questi? Va bene. Tina, vuol dire qualcos'altro o poi sì, facciamo sì, parlare anche gli altri? Un'altra ultima cosa. Mario Monti dove ha sbagliato? Lui ha cominciato la scala salendo la scala, da giù su. Lui doveva scendere la scala, cominciando da sopra e scendendo giù. Bene? Sai che perché? Deve acciuffare quelli sopra, e sono tanti e tanti. A lei piace, grazie Tina, procedere per domande, cioè così in modo retorico. Comunque è stato un intervento simpatico il suo, oltre che interessante. Dipendenti pubblici, io l'avevo buttata lì così, adesso la redazione solerte e mi ha presentato subito una statistica. La fonte adesso la appuriamo. Qual è la fonte? C'è scritto da qualche parte, adesso però non perdo tempo con quello. In effetti i dipendenti pubblici in Italia sono il 5,7% della popolazione. La media europea, adesso qua non la leggo, però prendendo così la Germania sono il 5,47, cioè lo stesso, poco di meno. La Francia sono l'8%, un po' di più. Ci sono paesi, soprattutto nel nord Europa, dove sono ancora di più, tipo in Finlandia il 10%, eccetera, eccetera. In Svezia il 12%, in Ungheria il 7%. Stavo cercando la Gran Bretagna, non la trovo, ma insomma mi pare che si possa dimostrare così su due piedi che il problema non è tagliare 1 milione di dipendenti pubblici, perché poi sarebbero troppo pochi, insomma, qualcuno deve pur fare la scuola, la sanità e tutti i servizi. Mi sembra una cosa così banale, però poi invece scopro che, grazie a voi ascoltatori, che invece l'idea di tagliare tutti i dipendenti pubblici piace tantissimo a molti di voi. Gianni da Roma, buonasera. Gianni? Buonasera Maurizio. Eccoci qua. Prego. Volevo prima una brevissima pregata. No, non si sente nulla. Scusi Gianni, dobbiamo passare un altro ascoltatore. Proviamo semmai a migliorare la linea, anche se siamo quasi in chiusura. Antonio da Chieti, l'abbiamo già sentito. Enzo da Salerno, allora, buonasera. Sì, buonasera. Ho finito le ultime battute della trasmissione a proposito di dipendenti pubblici. In realtà, se vuole, posso fornirle una fonte per questo dato, che per esempio il sito dell'Ocse, dove trova addirittura quando si spende stato per stato i vari livelli di amministrazione per i dipendenti pubblici. Scoprirà che addirittura i virtuosissimi Stati Uniti hanno una spesa che in percentuale rispetto al PIL è molto simile a quella dell'Italia e si attesta come spesa. Sì, ma infatti noi, mi scusi se la interrompo, le faccio proseguire, noi spesso imputiamo a noi stessi, all'Italia, dei mali gravissimi, delle cose incredibili che poi non abbiamo assolutamente, tipo questa enormità dei dipendenti pubblici che non è così. Comunque, prego. Altro discorso ovviamente dell'efficienza, ma questo dipende ovviamente, è un fatto di organizzazione, è un fatto di serietà e ovviamente questo se ne può discutere, ma così pensare di tagliare e risolvere il problema non è, appunto, significa risolvere una parte, devi andare in una direzione che non è quella decisiva. Io vabbè, sono dipendente pubblico anch'io, faccio una difesa di parte, ma insomma è questo. In realtà non la chiamavo per questa ragione, però, perché ho sentito questa cosa così mentre ero a telefono, e la chiamo per un'altra ragione, cioè perché questa sera venendo in macchina ho sentito una serie di lamentele, c'è sempre qualcuno che dice che deve pagare qualcun altro, poi ho sentito addirittura delle affermazioni un po' fuori luogo, direi senz'altro lunari, come spesso sono quelle della Lega, a proposito del nostro Presidente della Repubblica, Dio l'abbia in gloria. E quindi diciamo, ho avuto voglia di dare una testimonianza di segno radicalmente diverso, perché mi pare che finalmente il governo Monti sia un governo, diciamo, di persone che quando parlano sanno di cosa parlano, e questo mi sembra un fatto minimale che però noi avevamo, credo, dimenticato, diciamo, nella nostra classe politica, visto che abbiamo dovuto sentir parlare addirittura ministri dell'educazione che parlano di fantomatici tunnel, oppure ministri della difesa che su pratoni di Pontida sentivano il grido secessione, secessione, senza chiamare l'esercito come avrebbe dovuto fare. Insomma, cosa del genere. E quindi io sono contento del governo Monti, pagherò per la parte che mi tocca, come pagheremo tutti, ovviamente in proporzione rispetto a quello che ognuno possiede e ognuno guadagna, e quindi sono molto contento di questo. E credo, chiudo con una battuta, che diciamo, molto sento spesso dire il bipolarismo è un valore, ecco, io penso che il bipolarismo per l'Italia sia un lusso e non ce lo possiamo permettere, mi pare, se il bipolarismo ci ha portato a quelle cose che ho accennato en passant prima. Questa è la mia quest'ultima cosa non l'ho capita del tutto, ma tant'è, magari ci torniamo domani. A lei e anche agli ascoltatori che sono rimasti in linea, saranno i primi ad essere richiamati domani. Voglio ringraziare ancora Franco Piattani da Diego Rovelli in redazione, Filippo Reggi regia. Ci risentiamo domani pomeriggio dopo le 18. Radio 24. Il Natale si sente.